Bene, ultimiamo il programma di quest'anno, condotto in forma semplificata e abbreviata, con questa audio lezione su leopardi. Dopodiché, vi assegnerò un compito, scritto, un confronto guidato fra un testo di Manzoni e uno di Leopardi. Questa prova scritta da consegnare direi entro il, non so, 20, 27 maggio, facciamo 27 maggio, servirà per darvi il secondo e ultimo voto e fine. Qualcuno avrà 3 voti, qualcun altro 2, ma insomma adesso non stiamo tanto a sottilizzare data la situazione. Dunque, immagino che conosciate già i tratti essenziali della biografia leopardiana, per averli studiati alle medie o al biennio, non lo so. Comunque, insomma, per ricordare le date di Manzo, di Foscolo e di Leopardi si può ricorrere a un accorgimento. Foscolo 1778-1827, Leopardi 1798-1837. Leopardi, come sapete, nacque Giacomo Leopardi, il conte Giacomo Leopardi, come sapete, nacque a Recanati, città dell'allora Stato Pontificio. Nacque da Monaldo Leopardi, il conte Monaldo e Adelaide degli Antici, la madre era una donna molto, molto fredda, distaccata, che non amava sostanzialmente i figli ed era preoccupata soltanto dall'esigenza di risanare le finanze disastrate della famiglia. E forse così l'indole pessimistica e melanconica di Leopardi affonda le proprie radici, oltre che nella sua deformità fisica, anche nel difficile rapporto, anzi nel pessimo rapporto con la madre. C'è un frammento autobiografico famoso in cui Leopardi, ecco, nello zibaldone di pensieri, lo zibaldone, una sorta di grande diario, che insomma diario di migliaia di pagine, che accompagnò tutta la vita di Leopardi. Iniziò a scriverlo giovanissimo, poco più che ventenne, insomma, e annotò costantemente in questo diario. Se fosse vissuto oggi, forse avrebbe tenuto un blog, ecco. Se uno dovesse definire lo Zibaldone, potrebbe definirlo proprio come un blog, con tanto di date e di, no, blog entries, come vengono chiamate oggi. Comunque, diciamo, una sorta di diario autobiografico, ma anche e soprattutto culturale, intellettuale, in cui Leopardi annotava le proprie sensazioni, i propri pensieri, anche le proprie letture, i propri progetti di opere. Trascriveva brani, insomma, dai libri che stava leggendo. È molto utile per ricostruire la biografia intellettuale di Leopardi, il suo cantiere creativo, ma ha anche un valore di opera autonoma. Alcuni l'hanno paragonato ai saggi di Montaigne, si potrebbero paragonare agli Adagia di Erasmo da Rotterdam. Brevi saggi in cui Erasmo da Rotterdam commenta delle frasi celebri della sapienza classica. Ad ogni modo, qui dice allora nello Zibaldone, Zibaldone 353-354: quando anche la religione cristiana sia contraria alla natura, quando non influisce se non sul semplice rigido raziocinio e quando questo solo serve di norma, si può vedere per questo esempio. Io ho conosciuto intimamente una madre di famiglia che non era punto superstiziosa, ma saldissima ed esattissima nella credenza cristiana e negli esercizi della religione. Questa non solamente non compiangeva quei genitori che perdevano i loro figli bambini, ma li invidiava intimamente e sinceramente, perché questi erano volati al paradiso senza pericoli e avevano liberato i genitori dall'incomodo di mantenerli. Ecco, pensate che razza di madre che dice: beh, sono beati quelli che perdono i figli quando sono ancora piccoli, così quelli vanno direttamente in paradiso, non hanno fatto in tempo a peccare. Poi non c'è neanche il problema di mantenerli, quindi sono già in paradiso, insomma, buonanotte. Trovandosi più volte in pericolo di perdere i suoi figli nella stessa età, non pregava Dio che li facesse morire, perché la religione non lo permette, ma gioiva cordialmente. Pensate, questa gioiva quando i figli erano malati e sofferenti. E vedendo piangere o affliggersi il marito, si rannicchiava in se stessa e provava un vero e sensibile dispetto, cioè era infastidita dal fatto che il marito, il povero conte Monaldo, fosse invece preoccupato per la malattia dei figli. Era esattissima degli uffizi che rendeva quei poveri malati, ma nel fondo dell'anima desiderava che fossero inutili, ed arrivò a confessare che il solo timore che provava nell'interrogare o con... è che sto leggendo su Wikisource, allora... consultare i medici, era di sentirne opinioni o ragguagli di miglioramento. Vedendo nei malati qualche segno di morte vicina, sentiva una gioia profonda, che si sforzava di dissimulare solamente con quelli che la condannavano. E il giorno della loro morte, se accadeva, era per lei un giorno allegro ed ameno, ne sapeva comprendere, cioè piacevole, ne sapeva comprendere come il marito fosse sì poco savio da attristarsene, insomma. Questa madre che si augura la morte dei figli, che considera la morte come qualcosa di gioioso, di festoso, insomma, quando i figli si ammalano è contenta, considerava la bellezza come una vera disgrazia, pensate, e vedendo i suoi figli brutti o deformi, ne ringraziava Dio, non per eroismo, ma di tutta voglia. Non procurava in nessun modo di aiutarli a nascondere i loro difetti, anzi pretendeva che in vista di essi rinunziassero interamente alla vita, nella loro prima gioventù. Se resistevano, se cercavano il contrario, se vi riuscivano in qualche minima parte, ne era indispettita. Scemava quanto poteva, cioè diminuiva, sminuiva quanto poteva con le parole, con l'opinione sua, i loro successi, tanto dei brutti quanto dei belli, perché ne ebbe molti, e non lasciava passare, anzi cercava studiosamente, cioè con impegno, l'occasione di rinfacciare loro e far loro ben conoscere i loro difetti e le conseguenze che ne dovevano aspettare, e persuaderli della loro inevitabile miseria, con una veracità spietata e feroce. Beh, se non altro era una che diceva pane al pane e vino al vino, insomma, non diceva al figlio: ma no, sei bellino anche tu, insomma, gli diceva: no, guarda, sei un mostro, ma sono contenta perché così, insomma, non sarai messo, non dovrai affrontare le tentazioni, insomma, della carne, insomma, non sarai, la tua anima, la salute della tua anima non sarà messa a rischio, ecco. Questa veracità spietata e feroce è poi quella che si ritrova anche in alcune parti in alcune pagine di Leopardi, caratterizzate dal suo tipico pessimismo, una filosofia amara ma vera, no? Dirà Leopardi. Sentiva i cattivi successi dei suoi figli in questo simili particolari con vera consolazione. I cattivi successi vorrebbe dire gli insuccessi, e si tratteneva di preferenza con loro sopra ciò che aveva sentito in loro disfavore. Era contenta degli insuccessi dei figli, e poi diceva ai figli: sai, quello ha parlato male di te, ha detto questo e quest'altro contro di te. Tutto questo per liberarli dai pericoli dell'anima, e nello stesso modo si regolava in tutto quello che spetta all'educazione dei figli, al produrli nel mondo, al collocarli ai mezzi tutti di felicità temporale, cioè terrena. Sentiva infinita compassione per i peccatori, ma pochissima per le sventure corporali o temporali, cioè terrene, eccetto se la natura talvolta la vinceva. Evidentemente qui vuol dire tranne quando queste sventure portavano alla morte. Le malattie e le morti le più compassionevoli dei giovanetti estinti nel fiore dell'età, fra le più belle speranze, col maggior danno delle famiglie o del pubblico, eccetera, non la toccavano in verun modo. Perché diceva che non importa l'età della morte, ma il modo. E perciò soleva sempre informarsi curiosamente se erano morti bene secondo la religione, o quando erano malati, se mostravano rassegnazione, eccetera. E parlava di queste disgrazie con una freddezza marmorea. Ecco. Quindi vedete, una donna che da un lato crede fermamente nella religione, ha una religiosità molto dogmatica, molto rigida, ma nello stesso tempo completamente priva di empatia, no? Quella che oggi di compassione, insomma, la capacità di partecipare emotivamente, ecco, alla sofferenza altrui. E parlava di queste disgrazie con una freddezza marmorea. Questa donna aveva sortito dalla natura un carattere sensibilissimo ed era stata così ridotta dalla sola religione. Ora questo che altro è se non barbarie? E tuttavia non è altro che un calcolo matematico e una conseguenza immediata e necessaria dei principi di religione esattamente considerati, di quella religione che a buon diritto si vanta per la più misericordiosa, eccetera. Ma la ragione è così barbara che dovunque la occupa il primo posto e diventa regola assoluta, da qualunque principio è la parta e sopra qualunque base la sia fondata. Tutto diventa barbaro. Così vediamo le tante barbarie delle religioni antiche, sebbene queste fossero figlie dell'immaginazione. E anche senza i principi religiosi è purtroppo evidente che la sola stretta ragione ci porta alle conseguenze specificate di sopra. Questo è un singolare paradosso, cioè anche la religione, se viene interpretata in modo eccessivamente dogmatico, eccessivamente normativo, eccessivamente razionale, diventa qualcosa di disumano. E dice Leopardi, in fin dei conti, dati i presupposti della religione cristiana, per la quale il regno dei cieli è più importante della vita terrena, allora il comportamento così apparentemente assurdo della madre diventa perfettamente giustificato. Che cosa c'è di strano in fin dei conti? No, se il paradiso è più importante della vita terrena, allora no, tanto vale rallegrarsi per la morte di qualcuno, rallegrarsi anche per la morte di un bambino che se non altro è andato in paradiso, no, sicuramente non avendo avuto il tempo di peccare, allora tanto vale rallegrarsi anche della bruttezza, della deformità, della sofferenza, perché la sofferenza avvicina Dio, avvicina Cristo, no? Cristo è per eccellenza, no? Christus patiens, colui che soffre sulla croce. Ecco, questa è la pagina fondamentale, una pagina fondamentale, Zibaldone 350. Tre e seguenti, insomma, per ricostruire così la genesi della psiche di Leopardi. Il conte Monaldo invece non era così, insomma, come si può dire, freddo e insensibile come la madre. Il conte Monaldo era soprattutto, anzi, esclusivamente un letterato, beato lui. Era nobile, sì, non era ricchissimo perché le finanze della famiglia Leopardi erano decadute, ma ecco, la sua principale occupazione consistette nell'allestire una importantissima biblioteca in cui avvenne la formazione culturale del figlio Giacomo. Tutti dicono, ma insomma, povero Leopardi che fin da ragazzino stava là chiuso nella biblioteca a studiare. Io dico, averla una biblioteca come quella, magari, ti sarebbe da farci la firma, insomma, no? Non so se abbiate visitato mai la casa la casa di Leopardi a Recanati. Attualmente è una casa museo, anche se è ancora una dimora privata, lì abitano ancora i discendenti dei conti Leopardi, ma è anche così, c'è un piano della casa che è adibito a casa museo. Ogni tanto fanno anche delle stupidaggini, delle rievocazioni di com'era Recanati nell'Ottocento, tutti vestiti come nell'Ottocento, la donzelletta, il fabbro, insomma, il falegname, insomma, queste cose qui, queste robe così, un po' da sacra paesana, un po' così, un po' kitsch se vogliamo. Ma ecco, lì si può visitare la biblioteca di casa Leopardi. A dire il vero, entrandoci così non fa una grande impressione, così sono queste due stanzette piccole, ma c'è anche la scrivania, insomma, di Leopardi, che è rimasta ancora com'era all'epoca. È una biblioteca ricchissima, ovviamente, di classici greci e latini. C'è anche un armadio con opere proibite, opere messe all'indice, che potevano essere consultate solo con il permesso di Monaldo. Lì ci sono i testi degli illuministi che Leopardi poté leggere, che ebbero un influsso sulla sua formazione. Ma ci sono anche opere, ovviamente, di carattere religioso, perché Monaldo era un cattolico conservatore, decisamente anti-giacobino, e sebbene Leopardi venga solitamente, e non del tutto a torto, indicato come pensatore laico, se non ateo, comunque l'influsso della Bibbia in Leopardi, come vedremo, è notevole. Anche l'influsso della mistica ebraica nel Cantico del Gallo Silvestre. I padri della Chiesa fanno sentire fortemente la loro influenza. Leopardi impara da solo il greco, il greco e l'ebraico, partendo dalla conoscenza del latino, e l'impara utilizzando una Bibbia multilingue, una Bibbia esaplare, che si trovava nella biblioteca paterna. Quindi si può dire che la Bibbia la conoscesse quasi a memoria. E quindi così, una formazione culturale per larga parte autodidattica, perché ebbe sì un precettore, il padre Sanchini, ma era così un letterato piuttosto mediocre, che lo seguì un po' per i primi anni, ma fondamentalmente le sue guide furono sì anche il padre, ma fondamentalmente fu un geniale autodidatta. In un caso come quello di Leopardi, seguire studi regolari sarebbe stato addirittura controproducente. Sotto certi aspetti sarebbe sempre meglio, almeno in campo umanistico, studiare da autodidatti, dopo aver ricevuto le basi, insomma, studiare per conto proprio, un po' come fece Grazia Deledda, che insomma aveva la quarta elementare come titolo di studio, poi prese qualche lezione privata, così studiò fondamentalmente da sola e arrivò a vincere il Nobel. Quindi, ad ogni modo, dunque, sì, ecco, fra l'altro le opere del conte Monaldo meriterebbero una qualche considerazione, in particolare, anche se le sue opere sono oggi per lo più dimenticate, ma perlomeno i dialoghetti sulle materie correnti dell'anno sono un'opera, una sorta di progetto parallelo rispetto alle operette morali di Leopardi, tanto che addirittura l'autore, insomma, dei dialoghetti sulle materie correnti dell'anno venne erroneamente identificato da alcuni con lo stesso Giacomo Leopardi, mentre erano opera di Monaldo. E Giacomo Leopardi dovette precisare che non era lui l'autore di quei sozzi fanatici dialogacci, come li chiamò. E c'è un'altra opera di Monaldo che andrebbe ricordata: La città dei filosofi, la città della filosofia, scusate. Ecco, la posizione ideologica di Monaldo era agli antipodi rispetto a quella del Leopardi maturo. Monaldo era un cattolico tradizionalista, intransigente, un tipico uomo dell'ancien régime, dello Stato pontificio, insomma. Mentre Leopardi si avvicinò prima alle idee illuministiche, poi a quelle del nascente risorgimento, soprattutto attraverso lo scambio epistolare con Pietro Giordani. Tuttavia c'è un aspetto che i due, insomma, padre e figlio, Leopardi padre e Leopardi figlio, hanno in comune, cioè la critica dell'illuminismo. Entrambi, pur se da posizioni diverse, anzi antitetiche, criticano l'eccesso di razionalismo che è insito nell'illuminismo. E andrebbe, non solo, ma anche i dialoghetti di Monaldo, come le operette morali di Giacomo, hanno un carattere ironico, satirico, pungente, antifrastico. Quindi i punti di contatto fra le due opere andrebbero forse studiati più attentamente, anche perché le operette morali, come vedremo, sono un'opera stratificata, scritta in più fasi. L'anno delle operette per eccellenza è indicato nel 1824, ma alcune di quelle operette furono scritte in seguito. I dialoghetti furono pubblicati nel 1832, ma le ultime operette morali furono aggiunte da Leopardi dopo quella data. Quindi il confronto, insomma, fra le due opere potrebbe essere significativo, anche se, insomma, la testimonianza del rapporto ambivalente, se vogliamo, e anche forse della sottile rivalità che c'era fra i due Leopardi, padre e figlio. Ovviamente il figlio enormemente superiore dal punto di vista letterario. Se non fosse per Giacomo, insomma, Bonaldo non sarebbe nemmeno ricordato, se non forse, non so, da qualche storico, da qualche studioso di storia marchigiana nel periodo dell'antico regime. Ad ogni modo, di Leopardi è rimasta anche una lettera al padre molto significativa, paragonabile per certi aspetti alla lettera al padre di Kafka, anche se Kafka nei confronti del Franz Kafka, insomma, nei confronti del proprio padre è molto più duro, è ancora più duro di quanto non lo sia Giacomo nei confronti di Monaldo. Ad ogni modo, insomma, qui siamo già ad una fase successiva. Dopo aver trascorso lunghi anni quasi segregato nel paterno ostello, come lo chiama, ostello non nel senso di ostello della gioventù, come si dice oggi, no? Adesso, nella dimora, ecco, paterna, immerso nello studio matto e disperatissimo, come lo chiamò lui, no? E tutti dicono: c'è il povero Leopardi con lo studio matto e disperatissimo, ma insomma, piuttosto che fare come i ragazzini di oggi che stanno lì a rimbecillirsi con quegli accidenti di videogiochi o con altre cretinate, allora vabbè, tanto vale che uno si. Se uno deve mandarsi in pappa il cervello, tanto vale che se lo mandi in pappa leggendo Platone o leggendo, che ne so, Euripide o Cicerone o Tito Livio, o magari la Bibbia in più lingue, piuttosto che a sparare alle astronavine o alle stesse, diciamo, con questi videogiochi del cavolo. Comunque, vabbè, o con quelle canzonacce idiote. Ma comunque, no, cosa stavo dicendo? Ah sì, ecco. A un certo punto, insomma, non ricordo l'anno esatto, ma credo che lui avesse 19 anni, quindi 1798, era stato nel 1800, tentativo di fuga tra il luglio e l'agosto del... Vabbè, insomma, comunque all'incirca di 18enne, 19enne, Leopardi cercò di fuggire proprio dal... 1819, ecco, cercò di fuggire dal paterno ostello, appunto, ma fu intercettato da un servitore e aveva lasciato al padre una lettera in cui gli diceva: insomma, caro padre, io ho scritto opere già di un certo livello, perché questo Leopardi, poco più che ventenne, aveva già scritto opere erudite, per cui vale la pena ricordare la storia dell'astronomia, che è più che altro una compilazione, ma in cui si trovano già alcune descrizioni del cielo notturno che si ritroveranno nelle opere maggiori del poeta. Ci sono addirittura riferimenti ad un codice di Galileo che non era stato ancora pubblicato, ma di cui Leopardi aveva già notizia e sul quale aveva cercato di reperire delle informazioni. Quindi già a 14 anni, insomma, pensate dove era arrivato Leopardi. E così cercò di fuggire, cercò invano di fuggire, ma venne intercettato. Tuttavia ebbe la possibilità in seguito di soggiornare in diverse città, Roma, Milano, Bologna, Firenze, Pisa. Si trovò bene, forse, si trovò davvero bene soltanto a Pisa, ecco. Anche un po' a Bologna, insomma, ebbe modo di apprezzare la cordialità della popolazione locale, ma conservò sempre, ecco, come scrive egli stesso in una lettera, un atteggiamento di assenza, insomma, una mancanza di relazione vera fra sé e il mondo circostante, fra sé e i propri simili, che è tipica di un temperamento depressivo. Indubbiamente la deformità fisica non lo aiutava. A dire il vero, allora, idea, il problema Leopardi e le donne, allora, dall'epistolario si evince che Leopardi, come del resto quasi tutti gli uomini di quell'epoca, frequentava regolarmente delle prostitute, soprattutto a Roma. Leopardi fu colpito dal grande numero di prostitute che si trovava proprio nella città della Chiesa, quindi rimase sbalordito. Ma insomma, questa è proprio la città della Chiesa, stato pontificio, qua la virtù, le cose, la castità, poi ci sono bordelli ovunque. Ma vabbè, coltivò, diciamo, nutrì diversi amori, alcuni amori per modo di dire, insomma, amori addirittura, no? Vabbè, quello per Teresa Fattorini, la figlia del cocchiere, non può neanche essere considerato un vero amore, perché era solo una ragazzina che loro salutavano dalla finestra, che abitava nel palazzo di fronte. Probabilmente non si parlarono mai. Non si sa nemmeno se la Silvia della poesia sia davvero questa Teresa Fattorini. In ogni caso non ebbero mai quei colloqui di cui parla, di cui favoleggia nella poesia. Il suo primo vero amore, ma insomma, amore, un'infatuazione, insomma, fu per una cugina, una lontana, una cugina, non ricordo di che grado, che peraltro era già sposata e che si chiamava, chi si ricorda, beh, non è poi così importante. Ad ogni modo scrisse quel testo, il diario del primo amore. Adesso non ricordo il nome della cugina, ma non è che fosse la Carniani Malvezzi, no? Teresa Carniani Malvezzi, sì, amma pelo, che brutta che era. Se voi andate a cercare Teresa Carniani Malvezzi, c'è anche quel ritratto, ma fa veramente spavento. La mia conversazione da solo a sola vi annoiava, non mi lasciaste luogo a nessun pretesto per ardire di continuarvi la frequenza delle mie visite. Ecco, un utile insegnamento, insomma, se uno non è interessata, è inutile continuare a romperle le scatole, rischiate solo che quella vi denunci per stalking, anche se all'epoca non usava. Ma faceva veramente spavento, sta Teresa Carniani Malvesti, si è andata a cercare il ritratto. Mamma mia. Vabbè, comunque, sì, diciamo che Leopardi non era una gran bellezza, ma anche sta Teresa Carniani Malvesti, insomma. Ma comunque il più celebre amore, il più infelice, insomma, amore del povero Leopardi fu per Fanny Targioni Tossetti, la famigerata Fanny Targioni, famigerata, cioè, Fanny Targioni Tozzetti. Beh, se avete visto il film, quello di Martone, su Leopardi, in cui Elio Germano interpreta Leopardi, appunto, il giovane favoloso. Per certi aspetti è un film anche suggestivo. Io ho caricato, nello spazio didattica la sequenza del film in cui viene rappresentato così in un'atmosfera onirica l'incontro fra l'uomo e la natura, no? Quella sequenza che si riferisce al dialogo della natura e di un islandese. E lì viene anche ricostruita questa vicenda. Questa Fanny Targioni Tozzetti, che era tutt'altro che stupida, era una nobildonna. Beh, c'è da dire che Leopardi, un po' come Beethoven, si innamorava sempre di queste nobildonne, no? Così irraggiungibili, che probabilmente l'avrebbero schifato anche se fosse stato bello, perché in quell'epoca, insomma, contavamo, beh, non solo in quell'epoca, un po' in tutte le epoche, ma a maggior ragione in quell'epoca, in quegli ambienti, contava molto anche, se non soprattutto, il rango nobiliare e il livello economico. Allora il contino, poverino, il contino Leopardi, vabbè, d'accordo, era nobile, ma piccola nobiltà, insomma, non era una famiglia importante, nobiltà decaduta, quindi non era neanche ricco, quindi sì. Ad ogni modo, forse queste donne non meritavano neanche, poi, ecco, l'amore di un grande poeta. Ad ogni modo, ecco, Fanny Targioni Tozzetti, che respinse il povero Giacomino Leopardi e si innamorò invece dell'amico infedele di Giacomo Leopardi, cioè il conte Antonio Ranieri. Sti qua erano tutti conti, ecco, ce ne fosse stato uno, erano tutti conti, sti qua, insomma. Vabbè, comunque, vabbè, che in quell'epoca la nobiltà poi era anche molto, insomma. Ce n'erano fin troppi di nobili, nobilotti, nobilucci o presunti tali. Comunque Antonio Ranieri, ecco, amico infedele, se vogliamo, perché intanto sedusse questa Fanny Targioni Tozzetti, che aveva respinto Leopardi. Beh, c'è da dire che, insomma, non è che questa non era la fidanzata di Leopardi, insomma, comunque l'aveva respinto, quindi non è la classica situazione in cui c'è quello che si fa rubare la donna dal migliore amico. In quel caso, ma non era proprio la donna di Leopardi, non ci sarebbe andata comunque. Ma non solo, ma questo Antonio Ranieri diventò, o meglio, si arrogò il diritto di essere una sorta di erede testamentario dal punto di vista letterario dell'opera di Leopardi. Pubblicò le opere di Leopardi a propria cura in un'edizione scorretta. E pubblicò anche un testo autobiografico riguardante il proprio rapporto, la propria amicizia con Leopardi, con particolari a volte sgradevoli sulle condizioni di salute del povero Giacomo, che era. Non si sa esattamente che malattia avesse, sono state fatte varie ipotesi. Ad ogni modo, con tutta probabilità morì di indigestione. Ecco, i libri di solito dicono morì fra atroci sofferenze per le malattie, morì molto banalmente di indigestione, perché gli avevano regalato, era molto goloso, insomma, lui mangiava un sacco di dolci, sorbetti, gelati, a Napoli soprattutto. Gli portarono un cartoccio di dolci e lui se li mangiò tutti, fece questa scorpacciata di dolci e morì di indigestione, insomma, perché aveva mangiato troppi dolci, no? Non sembra una morte molto nobile, molto elevata, molto degna di un poeta. Allora i libri di solito dicono morì consumato dalla terribile malattia che lo affliggeva, eccetera, eccetera. No, morì di indigestione perché aveva mangiato troppi dolci, ma a un certo punto, insomma, il motivo della morte è anche secondario. Vabbè, ho ripercorso le tappe. Accidenti, è già passata mezz'ora, bisogna sbrigarsi, sennò è tanto dura questa cosa. No, allora, sì, ho ripercorso le tappe della sua, alcune delle tappe della sua vita, sicuramente saltandone alcune, ma in realtà la sua fu una biografia priva di eventi esteriori di rilievo. Quello che conta ovviamente è la sua opera. Noi ci soffermiamo soltanto sui canti e sulle operette morali. Lo Zibaldone lo lasciamo un po' da parte, non perché non sia un'opera importante, ma insomma, forse è scorretto leggerlo soltanto a corollario, insomma, come commento dei canti e delle operette. Dovrebbe essere forse riconosciuta una dignità autonoma questo Zibaldone, che fu pubblicato per la prima volta postumo a cura di Carducci. Fu Giosuè Carducci a curare alla fine dell'Ottocento, 1890 e qualcosa, insomma, la prima edizione dello Zibaldone è rimasto manoscritto. Ad ogni modo, Canti, già questo titolo, ecco, opera anch'essa stratificata, di cui uscirono diverse edizioni. Già Canti è un titolo atipico nella poesia italiana, perché di solito i poeti riunivano le proprie opere in canzonieri, ecco, no? O non so, ecco, Foscolo pubblicò La Raccoltina, intitolata semplicemente Poesie, pure Manzoni, Inni Sacri, no? C'erano queste raccolte di inni. Canti è un termine, se vogliamo, inusuale come titolo di un libro di poesie. Evidentemente si vuole sottolineare il carattere lirico, no? Introspettivo, soggettivo, quindi non narrativo né didascalico di questa poesia. Ecco, Leopardi utilizza a volte, raramente, la canzone chiusa, cioè la canzone petrarchesca, ossia la canzone composta da strofe di endecasillabi e settenari con uno schema ben preciso, no? Fronte, sirma. Per lo più usa la cosiddetta canzone libera, detta anche canzone leopardiana, cioè endecasillabi e settenari liberamente alternati e rimati. Si tratta di una forma metrica che non viene, a dire il vero, inventata da Leopardi. Già i madrigali di Tasso, di Torquato Tasso, i madrigali, non ovviamente la Gerusalemme liberata, che è scritta in ottave, ma i madrigali, cioè quei testi di carattere lirico, idillico, appunto, naturalistico, celebri anche perché molti di essi furono, alcuni di essi furono musicati da Claudio Monteverdi. Ma ecco, già i madrigali di Tasso hanno questa forma, no? Endecasillabi e settenari liberamente alternati e rimati, questo carattere lirico, idillico. Qual rugiada o qual pianto, quai lacrime erano quelle che pianger vidi dal notturno manto e dal candido volto delle stelle. Ecco. Anche questa visione, così, questo notturno, ecco, tassiano, sembra anticipare certe atmosfere leopardiane. Ecco, a Leopardi non piaceva il sonetto, ecco, la forma chiusa non gli era molto, molto consentanea. Ci sono alcuni sonetti caudati, ma hanno un carattere parodico, un carattere satirico, insomma, sono testi tutto sommato minori. Ecco, no, dicevo, la canzone libera, la canzone leopardiana, endecasillabi e settenari liberamente alternati e rimati, trovava un altro antecedente nei poeti pindarici del 600, in particolare Fulvio Testi, poeti pindarici del 600, la cosiddetta canzone a selva. E anche il problema del rapporto fra Leopardi e il barocco andrebbe affrontato. Daniello Bartoli, Paolo Segneri, ma in particolare Daniello Bartoli, addirittura per Leopardi, era il Dante della prosa, il grande bruciatore del 600, Daniello Bartoli, che oggi credo che oggi insomma viene a malapena studiato a livello universitario, a scuola al massimo, si accenna brevemente. Forse io vi ho fatto leggere quando abbiamo fatto il barocco, quella pa una pagina di Daniello Bartoli accompagnata proprio dal giudizio di Leopardi. Comunque, tornando a noi, ecco, ma il metro, grazie a cui, il metro, grazie a cui Leopardi riesce maggiormente riesce a dare il meglio di sé, ad esprimere la propria musa nel modo più efficace, è con tutta probabilità l'endecasillabo sciolto. Endecasillabo sciolto, di cui noi abbiamo già visto un esempio significativo in Vincenzo Monti, I pensieri d'amore di Vincenzo Monti. Vi ho già dato quella fotocopia che in una paginetta proprio vi fa vedere quella tipica sensibilità preromantica o protoromantica, insomma, questa visione sentimentale e soggettiva della natura, no? Che è comune a Monti e Leopardi, il che sembra paradossale, perché noi siamo abituati ad associare Monti al neoclassicismo più freddo e più accademico, e a vedere invece in Leopardi il romantico, appassionato, sofferente, eccetera. Ecco, in endecasillabi sciolti è scritto l'infinito, che non è un sonetto. Ogni tanto capita di sentire questa bestialità. L'infinito non è un sonetto. Sembra, perché sono, se non sbaglio, 13 versi. Quindi uno, così vedendolo, magari ha l'impressione di essere un sonetto, ma non ci sono neanche le rime, non è formato da due quartine, due terzine. Non è un sonetto, alcuni hanno detto è come un sonetto dissimulato, ma in realtà non c'entra, è un idillio in endecasillabi sciolti. E anche alla luna è scritto in questo metro, per limitarsi ai testi che leggeremo. Ecco, gli idilli, i piccoli idilli e i grandi idilli. I piccoli idilli hanno un carattere più naturalistico, lirico, un'immediatezza, una concisione espressiva maggiore, mentre i grandi idilli hanno un carattere da un lato lirico, dall'altro discorsivo, argomentativo, raziocinante. Ecco, i grandi idilli manifestano quello che un grande critico, Antonio Prete, ha chiamato il pensiero poetante, ecco, riprendendo una espressione della filosofia di Heidegger. Il pensiero poetante, cioè una poesia che riesce straordinariamente a fondere l'immagine naturalistica con la riflessione filosofica, quindi da un lato la percezione sensoriale, dall'altro i concetti astratti. Sono due aspetti molto difficili da fondere l'uno con l'altro senza cadere in forzature o in pesantezze, insomma. Ecco, beh, andiamo con ordine, insomma, ordine si fa per dire, ma insomma, ordine relativo. E iniziamo. Io ho caricato già in didattica i testi più importanti che ho ritenuto e che normalmente vengono considerati più rappresentativi. Ad ogni modo li trovate sul vostro libro, anzi in qualsiasi altro libro, insomma, decente, ecco, non è indispensabile seguire proprio quello. Allora, iniziamo con l'infinito. Che fantasia proprio, insomma. Qui c'è un'introduzione in quel file che vi ho caricato, piuttosto semplice, ma insomma, sempre meglio. Allora, ecco, idillio, questo genere letterario dell'idillio, come forse sapete, o forse no, perché la poesia ellenistica, la poesia greca di età ellenistica si studia nell'ultimo anno. Comunque, idillio, questo termine, idillio, penso un po' si dice anche oggi, no? Un paesaggio idillico, no? Ma ecco, il termine idillio viene dal greco e idillion letteralmente significa piccola immagine, è un diminutivo di eidos. Gli idilli che furono scritti da... Beh, sono famosi soprattutto quelli di Teocrito. Leopardi tradusse anche quelli di Mosco, Mosco, che non è il maschio della mosca, ma insomma era un poeta che si chiamava Mosco, e se uno prende la traduzione di Leopardi da Mosco e la confronta anche con l'originale, trova già lì l'immagine della siepe, anche l'effetto di suono del vento che sussurra e che fa stormire le foglie. Quindi può darsi che la fonte diretta di ispirazione sia anche, ecco, l'idillio di Mosco. Ad ogni modo, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ermo significa solitario, grecismo molto marcato. C'è anche in italiano la parola eremo, eremita, insomma, Eremos dà l'idea, no? Qualcosa di solitario, di isolato, anche di misterioso. Si allude al cosiddetto Monte Tabor, che no, che in realtà Monte Tabor, il Monte Tabor sarebbe un famoso monte biblico. Lì a Recanati c'è una collinetta, vabbè, che veniva chiamata Monte Tabor, ma non è un monte, era cioè, tipo il Monte Castellaccio, anzi forse anche meno, però c'è questa siepe che vabbè, di per sé non dice niente, così è una siepe come tutte le altre. L'importante è quello che Leopardi immagina proprio al di là di quella siepe, dice, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte riguardo esclude, cioè questa siepe che per un tratto così ampio impedisce la vista dell'orizzonte estremo. Non si sa esattamente se dell'ultimo orizzonte dipenda da guardo o dipenda da tanta parte, ma non è che il senso generale venga modificato in modo decisivo. Ma sedendo e mirando, ecco, questi due gerundi sono interessanti, perché anche l'accostamento dei due gerundi fa pensare ad una citazione da Aristotele: sedendo et quiescendo, anima efficitur sapiens. Ma c'è anche in Sant'Agostino un passo analogo che alcuni hanno indicato proprio come antecedente diretto dell'infinito. Insomma, questa sedendo e mirando, questo sedendo, cioè l'idea della contemplazione, insomma dell'attività teoretica che viene favorita proprio dall'indugio, dalla stasi, dalla quiete. Quindi sedendo e mirando, cioè mirando cosa? Perché poi lui vede la siepe, quindi guardando con gli occhi della mente e dello spirito. Interminati spazi, ecco, tutti questi sono complementi oggetto del verbo io nel pensiero mi fingo. Quindi sarebbe, restando seduto e contemplando, dice, io immagino, o meglio plasmo, formo, dipingo insomma nel mio pensiero spazi interminati, cioè sconfinati. Questo aggettivo interminato viene usato sia da Galileo che da Giordano Bruno per indicare lo spazio indefinito e virtualmente infinito del moto inerziale. Quindi è significativo, insomma, questo possibile riferimento sia a a Galileo che a Giordano Bruno, cioè ad un infinito concepito in termini puramente matematici, puramente teorici, virtuali, concettuali da Galileo, mentre Giordano Bruno sentiva l'infinità dell'universo attraverso l'intuizione, attraverso l'eroico furore. Ecco, ci sono questi due aspetti. Di là da quella, e sovrumani silenzi. Notate anche questi enjambements, no? Interminati spazi, sovrumani silenzi, che rientrano fra i cosiddetti segnali dell'infinito, come li chiamava un grande critico, Luigi Blasucci, e profondissima quiete. Su quiete bisogna mettere una dieresi, anche se non è scritta. Silenzi e profondissima quiete, i polisillabi e queste sibilanti danno proprio un'idea di calma, di quiete, di dilatazione, insomma, evocano l'idea dell'infinito, del vago e dell'indefinito, come dice Leopardi, no? Leopardi teorizzò la poetica del vago e dell'indefinito, cioè parole come lontano e antico, diceva Leopardi, danno una sensazione, un'impressione di indeterminato, di indefinito, appunto. Per questo sono parole poeticissime. Ora per poco il corno si spaura, dice, immaginando questi spazi sconfinati, manca poco che il cuore venga preso dallo sgomento. E come? Che ha valore temporale. E non appena, un po' come alcuni usi de lut in latino, quam primum, ut primum, dice, e non appena odo stormire il vento fra queste piante, io vado comparando, paragonando quell'infinito silenzio a questa voce, cioè al suono della siepe. E mi sovviene l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei. Quindi e si desta nella mia mente l'idea dell'eternità. Mi sovviene, vorrebbe dire, mi ricordo, qui c'è quasi una anamnesis platonica, cioè come se l'idea dell'eternità fosse già insita, anzi, effettivamente l'idea dell'eternità è già insita nella mente umana. L'uomo, pur essendo finito, è capace di concepire l'infinito, l'eterno, anche se effettivamente il cuore rischia di restare sgomento, di restare smarrito. E la presente vive il suon di lei. Qui di lei non si capisce se sia la siepe o la stagione, ma con tutta probabilità si tratta della stagione, perché è difficile che si riferisca alla siepe. Così tra questa immensità si annega il pensier mio e il naufragarmi è dolce in questo mare. Questa è un'immagine di origine teologica, c'è probabilmente un riferimento al pelagus substantiae infinitum di cui parlavano i teologi. Il mare infinito della sostanza, il gran mar dell'essere, come lo chiamava Dante. Paradossalmente vi è un approdo metafisico, almeno può essere interpretato in questi termini, sebbene la poesia per altri aspetti sia un'attuazione della cosiddetta poetica del sensismo, poetica di ascendenza settecentesca, teorizzata fra gli altri da Melchiorre Cesarotti, la poetica del sensismo, secondo la quale la poesia doveva arrivare ai concetti, alle sensazioni, alle idee, alle suggestioni, insomma, partendo da percezioni sensoriali che dovevano essere rappresentate nella loro intensità, nella loro evidenza e nella loro immediatezza. Dunque, passiamo alla Luna. Qui, insomma, ci vorrebbe un anno qua per fare tutta sta roba decentemente. Quindi, e qua, beh, insomma, procediamo un po' a volo di uccello. Oh, graziosa luna, io mi rammento che or volge l'anno sovra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allora su quella selva, siccome or fai, che tutta la rischiari, dice. Oh, graziosa lunga, graziosa, qui nel senso della Caris greca, ellenistica. Io ricordo che or volge l'anno, vuol dire un anno fa, ma in questa immagine dell'anno che volge. C'è l'idea almeno implicita dell'eterno ritorno del tempo che volvitur, cioè del tempo come cyclos, come circolo, no? Volge l'anno, la ruota del tempo, insomma. Sovra questo colle, su questo colle io venivo pieno d'angoscia a contemplarti. E tu allora restavi sospesa, anche questo pendevi è un uso virgiliano. Fa pensare, no, alla rappresentazione delle pecore che sono come sospese sulle pendici delle colline, sui declivi dei pascoli. Dice, tu pendevi allora su quella selva, su quel bosco, insomma, così come fai ora, che tutto lo illumini. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgeva sul ciglio, particolare che abbiamo già visto in Vincenzo Monti. Alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa era mia vita, dice, ma il tuo volto appariva ai miei occhi, alle mie luci, nebbioso e tremolante, per il pianto che mi spuntava negli occhi, che poiché travagliosa, cioè sofferente, dolorosa, era la mia vita, e tale è, né cangia stile, vuol dire, e non muta condizione, o mia diletta luna, eppur mi giova la ricordanza, innoverar l'etate del mio dolore. Dice, pure mi giova, cioè che è un latinismo, iuvat, cioè, insomma, è un'espressione virgiliana anche questa, meminisse iuvabit, gioverà, farà piacere, sarà piacevole, farà bene, insomma, il ricordare. Eppur mi giova la ricordanza, quindi ciò nonostante il ricordo, la ricordanza è per me piacevole. Ancora questa idea di anamnesis e innoverar l'etate del mio dolore, cioè sarebbe ripercorrere il tempo della mia sofferenza. Insomma, il ricordo, la memoria, allontanando tutti gli eventi, li rendono come piacevoli in certa misura. Oh, come grato corre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme breve alla memoria il corso, il rimembrare delle passate cose, ancor che triste, e che l'affanno duri. Questi versi furono aggiunti, questi ultimi versi furono aggiunti in un secondo momento, nella cosiddetta napoletana corretta, cioè una edizione a stampa dei canti, su cui Leopardi aveva aggiunto delle correzioni a mano, e si conserva ancora oggi alla Biblioteca Nazionale di Napoli, se non ricordo male, uno dei testi più, uno dei libri più pregiati, credo, in assoluto che ci siano. Lupin, quello del cartone animato, potrebbe andare là, insomma, con Gemone, con Gigen, eccetera, e rubare la napoletana corretta. Comunque, diciamo, come grato, bisognerebbe fare il fumetto, insomma, magari. Avrebbe anche successo, chi lo sa. Vabbè, comunque, dice, quanto è gradito, già che c'è, potrebbe rubare anche a Roma, no? Vaticano Latino 3196, insomma, il manoscritto con le correzioni autografe di Petrarca, e poi, insomma, avrebbe fatto l'amplein, cosa manca? Dovrebbe rubare un manoscritto di Dante, ma non ce ne sono, quello non potrebbe rubarlo. Dice, quanto è gradito nel tempo giovanile, quando la speranza ha ancora un corso breve e la memoria, no, al contrario, quando la speranza ha ancora davanti a sé un lungo corso e la memoria invece ha dietro di sé un corso breve. Nella giovinezza c'è poco da ricordare, ancora molto da sperare, questo è vero, no? Voi adesso avete sicuramente un sacco di speranze per il futuro. Non voglio portare scalogna, però, insomma, col passare degli anni inevitabilmente la speranza si abbrevia e purtroppo aumenta la quantità dei ricordi che non sono tutti lieti. Ma sotto certi aspetti può anche aver ragione Leopardi, effettivamente. Cioè, insomma, adesso non dico che il tempo e la memoria addirittura rendano dolci anche le sofferenze, però insomma le allontanano da noi, le rendono un po' così sfumate, indeterminate, quasi come se appartenessero a qualcun altro, se rientrassero così in un destino che in fin dei conti è immutabile. E allora uno dice, beh, doveva andare così. E pazienza, insomma, no? Il cosiddetto amor fati, come lo chiamerà Nietzsche. Dice, allora, come dico, come grato occorre rimembrare delle passate cose. Rimembranza, rimembrare è un termine, è una parola chiave di Leopardi, quindi il ricordo degli eventi passati, per quanto tristi, e sebbene, cioè, ancorché, cioè, questa è una variazio, perché avete ancorché, prima c'è un aggettivo, poi un verbo, ancorché triste, che l'affanno duri, l'affanno, parola tipicamente romantica, di origine onomatopeica, dal verbo anfanar, che cioè è un provenzalismo in origine, anfanar, cioè l'affanno, appunto, no? L'idea del respiro spezzato dall'angoscia. Ecco qua, allora l'infinito. Adesso, io qui ho anche inserito un PDF con il fondamentale testo dello Sibaldone riguardante la poetica. Cioè, no, vabbè, sono pagine di un manuale comunque. Un manuale migliore di quello che avete voi. Comunque, la poetica del vago e dell'indefinito, a cui ho già accennato, qui per certi aspetti è fin troppo dettagliato. Ad ogni modo, qui Leopardi dice: noi tendiamo, e si trovano riflessioni analoghe anche in Lucrezio. Comunque, Leopardi dice: noi, insomma, tutte le gioie, tutti i piaceri, tutte le gratificazioni che noi possiamo avere nella nostra vita reale sono sempre gratificazioni finite, il che è verissimo. Cioè, indipendentemente dal fatto che uno sia un povero storpio co come Leopardi, o sia, che ne so io, Cristiano Ronaldo, comunque non può avere, diciamo, esperire e assaporare direttamente un piacere e un appagamento infiniti, no? Ci sarà un momento in cui, so, perfino Cristiano Ronaldo, guardo, che ne so, se boh, ha sbagliato un gol, o se si è infortunato, se l'hanno espulso, che cavolo, anche lui si sentirà frustrato in quel momento, no? Poi avrà modo di consolarsi, ma so. Quindi, no, comunque la felicità perfetta, il pieno appagamento, la gratificazione così assoluta, senza limiti, beh, è una condizione che non è propria della creatura, non è propria dell'uomo, è propria di una divinità. La divinità non ha bisogno di niente, l'essere che è e non può non essere è infinito, incausato, illimitato, nulla gli manca, nulla gli si potrebbe aggiungere, nulla togliere. Insomma, è una condizione a cui l'uomo cerca, a cui l'uomo tende sempre, forse l'uomo è nato per tendere verso questo appagamento illimitato, perenne, senza limiti, ma deve rassegnarsi alla propria finitudine. È un po' quella che Hegel chiamerà la coscienza infelice, no? Proprio la coscienza che deve rassegnarsi a non poter essere tutto, a non poter abbracciare il tutto, a non poter. No, molto probabilmente, no, insomma, perché alcune persone ricorrono alle droghe, no? Pare che alcune droghe, adesso io sì, bevo un bicchiere di Lambrusco, ho già il mal di testa, però insomma, chi ha provato queste droghe così, certe droghe, di quelle robe lì nuove, sintetiche, eccetera, pare che diano questo senso di onnipotenza o di espansione. Già Baudelaire, che si riferiva al banale hashish e al banale assenzio, dicevano che queste sostanze danno proprio un senso di espansione dell'io, no? l'espansione che è propria delle infinite cose. Insomma, alcune sostanze darebbero questo senso di... Pare che, cioè, che l'LSD dia questa sensazione. Io non l'ho mai sinceramente provato, non avrei neanche i soldi, penso, per comprarlo, ma lasciate perdere, ecco, non provate ste robe, casomai riflettete su queste pagine preziose di Leopardi. Ma Lucrezio diceva qualcosa di simile, ecco. Quindi, in fin dei conti, il vero piacere deriva proprio da queste sensazioni illusorie, indefinite, indeterminate, no? Attraverso la poesia o attraverso l'arte si può avere, forse anche attraverso l'esperienza mistica, ecco, un vero mistico, un vero credente, ma non solo cattolico, anche, non so, i buddisti, no? I monaci buddisti, che a forza di meditare raggiungono il nirvana, quei pochi che lo raggiungono, forse loro riescono a raggiungere questo senso di assoluta pace, di immedesimazione con il tutto, con la T maiuscola, ecco, allora non hanno bisogno di nient'altro. Qui avete, ecco, quei brani che ho, adesso non sto a leggerli tutti perché ci vorrebbero, dovremmo stare qua un mese, ma appunto sono tutti incentrati su questi temi. Insomma, sono motivi che poi si ritroveranno nella poesia del Novecento, in particolare in Leopardi, buonanotte, in Ungaretti, no? Ungaretti, soprattutto in Sentimento del Tempo, la seconda raccolta, riprenderà tutti questi elementi. Ma l'anello di congiunzione fra Leopardi e Ungaretti è il grande Stéphane Mallarmé, il grande simbolismo francese. E qui si potrebbe citare ancora il grande Antonio Prete, il demone dell'analogia. Ecco, se per caso volete fare un'interessante lettura di saggistica sulla poesia, cioè un libro sulla, non di poesia, ma sulla poesia, il demone dell'analogia, studi di poetica da Leopardi a Valéry di Antonio Prete, non è neanche tanto lungo. Insomma, se leggete quello, non dico che abbiate già capito tutto della poesia moderna e contemporanea, ma quasi. Allora, dunque, l'infinito, la luna. Beh, a questo punto apriamo una parentesi sulle operette morali. Le operette morali non sono un testo di poesia, bensì di prosa. Anche se si tratta di una prosa poetico trattino lirica, quindi per certi aspetti è un testo anche poetico in senso lato. Insomma, l'anno delle operette viene normalmente indicato nel 1824, anche se poi, alcune vennero, forse, sì, la maggior parte venne composta nel 1824, altre furono composte in seguito. Anche delle operette ci sono edizioni diverse. C'è il problema del rapporto con i dialoghetti di Monaldo, che sono un progetto parallelo, insomma, bisognerebbe studiare meglio proprio anche a livello proprio specialistico, insomma, i rapporti fra i due testi. Ad ogni modo, noi leggiamo il Cantico del Gallo Silvestre, che in alcune antologie non c'è, comunque, ecco, e leggiamo, vi ho messo anche in rete, no, la trasposizione filmica del Dialogo della Natura di un islandese, ma poi vi metto anche in rete, se mi ricordo, il PDF con il passo saliente del Dialogo della Natura e di un islandese. Ad ogni modo, il Cantico del Gallo Silvestre, allora, operette morali, questo titolo fa pensare ai Moralia di Plutarco, ad esempio, anzi il titolo rinvia direttamente proprio ai Moralia di Plutarco. Comunque si tratta di prose, alcune in forma dialogica, altre no, ma comunque prose e dialoghi di argomento filosofico. Ecco, ormai a scuola non si studia più, o si studia poco, Luciano di Samosata. Credo però che Fratolillo lo fa, solo che voi avete, vabbè, comunque, purtroppo insomma, pare che Luciano di Samosata sia passato, sia caduto nel dimenticatoio, perché uno chiede, avete mai letto qualcosa, almeno fatto qualche versione di Luciano di Samosata? No, vabbè, peccato, perché fu decisamente un grandissimo scrittore greco, dal secondo secolo d.C., seconda sofistica, scrittore dall'indole pungente, ironica, demistificatrice, una sorta di Voltaire greco, di illuminista ante litteram, tanto che si è parlato anche di illuminismo greco, no? A proposito del grande Luciano di Samosata. E prosatore straordinario, fra l'altro, anche come stile, insomma, per la sua grande ricchezza lessicale, la sua vivezza di rappresentazione. Era un grande retore, fra l'altro inventore della fantascienza, si può dire, perché la storia vera di Luciano di Samosata è a tutti gli effetti il primo romanzo di fantascienza, insomma, con tanto di viaggio sulla luna, ecco, no? Quindi ecco, Leopardi concepì le operette morali, le definì prosette satiriche alla maniera di Luciano, ecco. Quindi Luciano di Samosata, con i suoi dialoghi, in particolare i dialoghi dei morti, potrebbero essere citati. I dialoghi dei morti di Luciano rappresentano un termine di confronto costante per le operette morali di Leopardi, ma anche Fontenelle, lo scrittore francese, aveva scritto le Dialogues des Morts, i dialoghi dei morti, no? E anche i dialoghi dei morti di Le Dialogues des Morts e le Nouveaux Dialogues des Morts, per il loro carattere sinistramente ironico, cioè dialoghi di morti che però hanno molta voglia di scherzare, morti che ridono dei vivi, no? Con questo straordinario straniamento, no? Ecco, insomma, questo aspetto così. Straniamento è proprio la parola chiave di tutta questa tradizione che arriva fino a Leopardi. C'è nelle operette morali il dialogo di Federico Rois e delle sue mummie, in cui le mummie improvvisamente si mettono a parlare, a cantare, anzi, no? E allora arriva lì Federico Rois, ma come mi avete svegliato, Federico Rois, che era uno scienziato, dice, ma mi avete svegliato, cosa vi è saltato in testa di mettervi a cantare? Ah, ma no, noi cantiamo soltanto una volta ogni, non so, 30.000 anni, una roba del genere. Lì c'è il riferimento, no, al grande anno degli stoici, ma è una credenza che si trova anche nei Maya, per esempio, nelle cosmologie Maya, no? Il Catun, cioè il ciclo che è destinato a ripetersi costantemente. E allora parlano del momento della morte e dicono, ma insomma la morte non è poi così brutta, noi non ci siamo nemmeno accorti di niente, insomma è meglio essere morti che essere vivi, noi abbiamo la nostra natura lieta, no, ma sicura dell'antico dolore, ecco, noi non siamo contenti, insomma, di essere morti, che non è che sia proprio una condizione così gioiosa, ma almeno siamo liberi dalle sofferenze della vita e non ci rendemmo nemmeno conto di morire, perché l'istante della morte non appartiene più alla vita, ma non appartiene ancora nemmeno alla morte. Di fatto la morte, l'istante della morte non esiste. Questo trapasso fra la dimensione dei vivi e quella dei morti è un trapasso impercettibile, impalpabile, inconsistente, insomma. Vabbè, comunque adesso qua il Cantico del Gallo Silvestre, qui ci sono i possibili riferimenti anche alla mistica ebraica, ma sarebbe troppo complesso ripercorrerli. Ad ogni modo, Leopardi trovò in un'opera erudita che si riferiva proprio ai miti, alle leggende ebraiche, insomma, questa immagine del gallo silvestre che ha le le zampe nel centro della terra e con la cresta tocca la sommità del cielo. Quindi una sorta di grande creatura cosmica, no? Che rappresenta l'universo, la natura, l'immensità, il tutto, insomma, una sorta di incarnazione di una legge universale. Affermano alcuni maestri e scrittori ebrei che tra il cielo e la terra, o vogliamo dire mezzo nell'uno e mezzo nell'altra, vive un certo gallo salvatico, cioè selvatico, il quale sta sulla terra coi piedi e tocca con la cresta e col becco il cielo. Questo gallo gigante, oltre a varie particolarità che di lui si possono leggere negli autori predetti, ha uso di ragione, o certo come un pappagallo è stato ammaestrato non so da chi, evidentemente da Dio, ma qui Leopardi lascia il discorso nel vago, a proferire, cioè a pronunciare parole a guisa degli uomini, cioè come gli uomini, perché si è trovato in una carta pecora antica, scritto in lettere ebraiche, in lingua tracaldea, targumica, anche in tasso, se ricordate, nel giardino lì di Armida, sopra l'episodio di Armida e Rinaldo, il giardino incantato di Armida, si trova il pappagallo che canta, no? Dice, e che esorta alle gioie della vita, insomma, al carpe diem, ad assaporare l'amore finché si è in tempo, e non ha neanche tanto, e non ha neanche tutti i torti. Comunque, proferì per la guida degli uomini, perché si è trovato in una carta pecora antica, scritto in lettere ebraiche, in lingua tracaldea, targumica, rabbinica, cabalistica e talmudica. Qui ovviamente Leopardi fa la parodia dell'erudizione, no? Era un grande erudito, ma era capace anche di scherzare, di non prendere totalmente sul serio questa immensa mole di materiali eruditi che si trovano. Fra l'altro, ecco, l'era di internet rende questo atteggiamento leopardiano molto attuale, no? Cioè, lui aveva, vabbè, una biblioteca sterminata, queste grandi opere di consultazione, il Fabricius, la biblioteca greca, la biblioteca latina del Fabricius, queste opere, queste enciclopedie immense, no? Più tutto quello che aveva nella testa, insomma, no, perché aveva letto un sacco, ma era anche capace di ironizzare su tutta questa erudizione, un po' come fa Borges. In questo Leopardi, in questo Borges è molto, molto simile. Jorge Luis Borges, il grande scrittore argentino, è abbastanza simile a Leopardi. C'è questa corda ironica nelle operette morali. Di norma noi non immaginiamo Leopardi sorridente, immaginiamo, no? Nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgeva sul ciglio alle mie luci, ma noi immaginiamo sto gobbetto poverino che sta lì, guarda la luna, piange disperato perché nessuno gli vuole bene. Ma insomma, in realtà c'è anche il Leopardi ironista, ecco. Anche se l'ironia leopardiana ovviamente è un'ironia molto amara, molto pungente, a volte anche un'ironia tragica, perché esiste anche l'ironia tragica, no? Come l'ironia tragica è quella che scava nelle profondità della parola e fa emergere un fondo insospettato di amarezza e di vacuità. Ad ogni modo, c'è un cantico intitolato, vabbè, qua c'è, cioè che, cantico mattutino del gallo silvestre, il quale non senza fatica grande, né senza interrogare più di un rabbino, cabalista, teologo, giurisconsulto, filosofo ebreo, sono venuto a capo di intendere e di ridurre in volgare, come qui appresso si vede. Qui, insomma, Leopardi ironizza su quello stesso mondo dell'erudizione che pure tanto amava. Anzi, a dire il vero, nelle operette morali, alla fine, nel dialogo di Tristano di un amico, dice: quegli studi che io mi meraviglio di aver tanto amato, cioè ormai non me ne importa più niente neanche di quegli studi, mi meraviglio di averli tanto amati, insomma. Il messaggio ultimo delle operette effettivamente è quello di una profondissima amarezza, quasi una forma di nichilismo, si potrebbe dire, accompagnato però da questa ironia, che è comunque un'ironia amara, un sorriso beffardo, distaccato, il sorriso del suicida, si potrebbe dire. Comunque, anche se Leopardi non morì suicida, si augurò di morire non troppo vecchio e infatti morì a 39 anni, quindi insomma non auguratevelo perché magari uno in un momento di sconforto dice bah, magari morire, poi va a finire che la sua richiesta viene esaudita, quindi è meglio insomma tutto sommato no? Non augurarselo. Comunque, non ho potuto per ancora ritrarre se questo cantico si ripeta dal gallo di tempo in tempo, ovvero tutte le mattine, o fosse cantato. Qui nelle note avete dei riferimenti molto precisi, migliori sicuramente di quelli che trovate sul Baldi o su uno, cos'è che avete? Voi avete l'Armellini Colombo che fa un po' meno schifo del Baldi, ma insomma più, se non altro ha il pregio della sintesi, ecco, Armellini Colombo. Questo, in rete ho caricato questo commento che è quello di Corrado Bologna, è l'unico fra i testi scolastici che abbia un minimo di spessore culturale. E qui vedete nella nota 2 di quel PDF che è caricato in rete, c'è il riferimento al Lexicon Caldaicum et Talmudicum del Buxtorf, da cui Leopardi trasse la notizia di questa leggenda del gallo silvestre. Erano proprio 3 righe. Et Gallus silvestris cuius pedes consistunt in terra et caput eius pertingit in cielo usque cantat coram me. Quindi 3 righe da cui Leopardi trasse questa straordinaria allegoria. Dunque, il canto del gallo, qui praticamente sì, qua si allude sempre a questa temporalità ciclica. No, non ho potuto per ancora ritrarre se questo caso si ripeta dal gallo di tempo in tempo, ovvero tutte le mattine, o fosse cantato una sola volta. È un po' come il canto potrebbe essere un po' come il canto delle mummie di Federico Rois, no? Che ciclicamente si ripete, no? Ad ogni compimento del grande anno cosmico, no? Concezione di origine stoica, e chi l'oda cantare o chi l'abbia udito, e se la detta lingua sia proprio la lingua del gallo, che il cantico gli fosse recato da qualche altra. La lingua della trascendenza è sempre una lingua altra. È stato detto che la lingua della poesia è sempre tradotta, perché è sempre tradotta dal piano del pensiero a quello della parola scritta o detta. È sempre una lingua altra. Sempre un alieniloquium, come diceva Petrarca, in una lettera. La lingua della poesia è sempre alieniloquium, una lingua altra, una lingua diversa, ma anche una lingua alienata, cioè una lingua che ha in sé qualcosa di folle, perché si discosta dalla razionalità ordinaria. Quanto si è al volgarizzamento infrascritto, per farlo più fedele che si potesse, Leopardi poi insomma, si divertiva spesso creare anche dei falsi e ci cascavano tutti, insomma, da ragazzo scrisse degli inni a Nettuno spacciandoli per antichi e ci cascarono tutti, insieme al padre che forgiò dei falsi testi del 300 e anche lì le levite dei santi padri, vivite dei padri del deserto, una roba del genere, e anche lì ci cascarono tutti, insomma era anche un giocherellone per molti aspetti, ognuno si diverte poi come crede, no? C'è questa dimensione ironica, erudizione e divertimento in lui vanno di pari passo, anche se l'ironia è sempre un'ironia amara. Mi è paruto di usare la prosa piuttosto che il verso, sebbene in cosa poetica. Vedete, l'importanza della prosa poetica. Qui Leopardi anticipa quello che sarà il poème en prose, il poema in prosa, genere tipico della grande tradizione simbolista, no? A partire da Baudelaire. Lo stile interrotto e forse qualche volta gonfio non mi dovrà essere imputato, essendo conforme a quello del testo originale, il qual testo corrisponde in questa parte all'uso delle lingue massime dei poeti d'Oriente. Ecco, questo era un motivo ricorrente nelle dispute fra gli eruditi, no? Lo stile orientale era considerato tipicamente turgido, no? gonfio, ridondante, retorico, il che per molti aspetti è vero, perché se uno legge anche gli antichi testi egizi, per esempio, ma anche certi passi dell'Antico Testamento biblico, trovano questo gusto per l'accumulazione, l'enumerazione, l'anafora. Su mortali, destatevi, il dì rinasce, torna la verità in sulla terra, e parton se nelle immagini vane. Sorgete, ripigliatevi la soma della vita, riducetevi dal mondo falso nel vero. Insomma, il gallo silvestre richiama ogni giorno tutti gli uomini alle fatiche della vita. Ciascuno in questo tempo raccoglie e ricorre con l'animo tutti i pensieri della sua vita presente, richiama la memoria, i disegni, gli studi, i negozi, si propone i diletti e gli affanni che gli siano per intervenire nello spazio del giorno nuovo. E ciascuno in questo tempo è più desideroso che mai di ritrovare pure nella sua mente aspettative gioconde e pensieri dolci, ma pochi sono soddisfatti di questo desiderio, a tutti il risvegliarsi è danno. Il misero non è prima desto che egli ritorna nelle mani dell'infelicità sua. Dolcissima cosa è quel sonno a conciliare il quale concorso letizia o speranza. L'una e l'altra, insieme alla vigilia del dì seguente, conservasi intera e salva, ma in questa o manca o declina. Insomma, ognuno ha grandi speranze per il nuovo giorno, ma quelle speranze sono destinate ad essere disilluse. Se il sonno dei mortali fosse perpetuo, una cosa medesima con la vita, se sotto l'astro diurno languendo per la terra in profondissima quiete, notate la stessa espressione che si trova, nell'infinito, tutti viventi, non apparisse opera alcuna, non muggito di buoi per i prati, né strepito di fiere per le foreste, né canto di uccelli per l'aria, né sussurro d'api o di farfalle, vedete? Mugito, sussurro, questi sono effetti fonosimbolici, o di farfalle scorresse per la campagna, non voce, non moto alcuno, se non delle acque, del vento, delle tempeste, sorgesse in alcuna banda, certo l'universo sarebbe inutile, ma forse che vi si troverebbe o copia minore di felicità o più di miseria che oggi non vi si trova? Dice anche, qui c'è la domanda metafisica fondamentale, no? Formulata da Leibniz, perché esiste l'essere e non il nulla? Leopardi dice che anche se non ci fosse nulla, comunque non vi sarebbe maggiore felicità e nemmeno minore dolore. Quindi, in fin dei conti, l'esistenza universale, l'arcano mirabile e spaventoso dell'esistenza universale, rimane privo di senso. Ma forse che vi si troverebbe o copia minore di felicità o più di miseria che oggi non vi si trova? Io dimando a te, o sole, autore del giorno e preside della vigilia, nello spazio dei secoli da te distinti e consumati fin qui sorgendo e cadendo, vedeste tu alcuna volta un solo in fra i viventi essere beato? Delle opere innumerabili dei mortali da te vedute finora, pensi tu che pur una ottenesse l'intento suo, che fu la soddisfazione o durevole o transitoria di quella creatura che la produsse? Anzi, vedi tu di presente o vedesti mai la felicità dentro ai confini del mondo? In qual campo soggiorno, in qual bosco, in qual montagna, in qual valle, in qual paese abitato, deserto, in qual pianeta dei tanti che le tue fiamme illustrano e scaldano? Forse si nasconde dal tuo cospetto e siede nell'imo, cioè nel profondo delle spelonche, cioè delle grotte, o nel profondo della terra o del mare? Qualcosa animata ne partecipa, qual pianta o che altro che tu vivifichi, qual creatura provveduta o sfornita di virtù vegetative o animali? E tu medesimo, tu che quasi un gigante instancabile, velocemente, di e notte, senza sonno né requie, corri lo smisurato cammino che ti è prescritto, sei tu beato o infelice? Insomma, vedete, qui c'è quello stile così gonfio e ridondante che Leopardi ha già preannunciato nel preambolo introduttivo. Mortali, destatevi, non siete ancora liberi dalla vita. Verrà tempo che in una forza di fuori, in un intrinseco movimento, vi riscuoterà. Mortali, destatevi, vedete, qui viene ripresa la frase il sintagma iniziale. Verrà tempo che in una forza di fuori, in un intrinseco movimento, vi riscuoterà dalla quiete del sonno, ma in quella sempre insaziabilmente riposerete. Notate, profondissima quiete, no? Quindi qui, diciamo, la poetica del vago e dell'indefinito viene riferita alla morte, no? Nell'infinito c'era naufragarmi a dolce in questo mare, qui il piacere è quello dell'annientamento, no? Qui c'è il motivo del cupio dissolvi, ecco, no? desidero dissolvermi. Per ora non vi è concessa la morte, solo di tratto vi è consentita per qualche spazio di tempo una somiglianza di quella, ecco, il sonno come fratello della morte, no? Concetto che si trovava che si trovava già nella filosofia greca, no? Il sonno serve per recuperare le forze, ma è anche fratello della morte, cioè assomiglia alla morte, quindi la vita ogni tanto ha bisogno di un'interruzione, di una sorta di particella di morte per poter continuare. Troppo lungo difetto di questo sonno breve, che dunque male per sé mortifero e cagione di sonno eterno. Questo è vero, si muore prima per mancanza di sonno che per mancanza di qualsiasi altra cosa. E chiunque abbia fatto il pendolare sa bene che tormento sia essere privati del sonno, è una delle cose più terrificanti. Tal cosa è la vita, che a portarla fa di bisogno ad ora ad ora, deponendola a ripigliare un poco di lena e a ristorarsi con un gusto quasi una particella di morte. Ecco, vedete, particella, particola, sembra quasi che quotidianamente l'uomo debba fare la comunione con una particola di morte, debba comunicarsi della morte, ecco, ogni giorno. Pare che l'essere delle cose abbia per suo proprio ed unico obietto il morire. Non potendo morire quel che non era, perciò dal nulla scaturirono le cose che sono. In effetti la creazione dal nulla, no, è un concetto tipicamente cristiano, la creazione ex nihilo, questo c'è un'ambiguità di fondo, perché creatio ex nihilo significa che tutte le cose provengono dal nulla e quindi sono destinate a tornare nel nulla. Certo, l'ultima causa dell'essere non è la felicità, però che ogni una cosa è felice. Ecco, questo è il pessimismo cosmico. Di solito i manuali distinguono fra come pessimismo storico, pessimismo cosmico e pessimismo. Beh, è una schematizzazione quella che è meglio lasciar perdere, insomma. Vero è che le creature animate si propongono questo fine in ciascuna opera loro, ma da niuna lo ottengono, in tutta la loro vita, ingegnandosi, adoperandosi e penando sempre, non patiscono veramente per altro e non si affaticano se non per giungere a questo solo intento della natura che è la morte, insomma. E qui Leopardi decisamente anticipa Heidegger, anticipa l'esistenzialismo, l'essere per la morte degli esistenzialisti. A ogni modo, l'esistenzialismo, grande corrente filosofica del Novecento, a ogni modo il primo tempo del giorno suole essere ai viventi il più comportabile, cioè il più sopportabile. Pochi sullo svegliarsi ritrovano nella loro mente pensieri dilettosi e lieti, ma quasi tutti se ne producono e formano di presente. Perocché gli animi in quell'ora, sian Dio senza materia alcuna speciale e determinata, inclinano soprattutto alla giocondità, o sono disposti più che negli altri alla pazienza, cioè alla sopportazione dei mali. Onde se alcuno, quando fu sopraggiunto dal sonno, trovavasi occupato della disperazione, destandosi, accetta nuovamente nell'animo la speranza, quantunque quella in niun modo se gli convenga. Insomma, al momento del risveglio ognuno ha qualche speranza per la giornata. Molti infortuni a travagli propri, molte cause di timore e di affanno, paiono in quel tempo minori assai che non parvero la sera innanzi. Spesso ancora le angosce del dì passato sono volte in dispregio e quasi per poco in riso come effetto di errori e di immaginazioni vane. La sera è comparabile alla vecchiaia, questa era un'antica similitudine, un archetipo, insomma, no? L'età della vita, la sera, la vecchiaia come sera della vita. Per lo contrario, il principio del mattino somiglia alla giovinezza, giovanezza anzi, questo per lo più racconsolato e confidente, la sera triste, scoraggiata e inchinevole a sperar male. Ma come la gioventù della vita intera, così quella che i mortali provano in ciascun giorno, è brevissima e fuggitiva, e prestamente anche il dì si riduce per loro in età provetta, cioè rapidamente come il giorno declina verso la sera, così la giovinezza declina verso la vecchiaia. Il fiore degli anni, sebbene il meglio della vita, è cosa pur misera. Non pertanto anche questo povero bene manca in sì piccolo tempo, cioè viene a mancare in un tempo così breve, che quando il vivente ha più segni si avvede della declinazione del proprio essere, appena ne ha sperimentato la perfezione, ne ha potuto sentire e conoscere pienamente le sue proprie forze, che già scemano, cioè diminuiscono. In qualunque genere di creature mortali, la massima parte del vivere è un appassire. cioè come i fiori, insomma, un decadere. Tanto in ogni opera sua era natura intenta indirizzata alla morte, questo essere per la morte, veramente già, questo era un tema già barocco, si trovava ad esempio, no, nei prosatori barocchi, l'uomo al punto, no, di chi era pure, l'uomo al punto, ossia in punto di morte, uomo con la H davanti, l'uomo al punto, era... Daniello Bartoli, appunto, no? il prosatore che Leopardi considerava il Dante della prosa, no? Tanto in ogni opera sua era natura intenta indirizzata alla morte, poiché non per altra cagione la vecchiezza prevale sì manifestamente e di sì gran lunga nella vita e nel mondo. Ogni parte dell'universo si affretta infaticabilmente alla morte con sollecitudine e celerità mirabile. Il vivere è un correre alla morte, lo dice anche Dante, riecheggiando Sant'Agostino. Solo l'universo medesimo apparisce immune dallo scadere e languire. Tutte le singole creature decadono, si corrompono, l'universo nella sua totalità invece sembra durare in eterno. Però che se nell'autunno e nell'inverno si dimostra quasi infermo e vecchio, non di meno sempre la stagione nuova ringiovanisce. Antichissimo motivo, no, del ciclo delle stagioni, no, l'eterno ritorno dell'uguale. Ma siccome i mortali, sebbene sul primo tempo di ciascun giorno racquistano alcuna parte di giovanezza, pure invecchiano tutto di e finalmente si estinguono, così l'universo, benché nel principio degli anni ringiovanisca, non di meno continuamente invecchia. Tempo verrà che esso universo, la natura medesima, sarà spenta, e nel modo che di grandissimi regni ed imperi umani, ed loro meravigliosi moti, che furono famosissimi in altre età, non resta oggi segno né fama alcuna, parimente del mondo intero e delle infinite vicende e calamità delle cose create non rimarrà pure un vestigio, ma un silenzio nudo, una quiete altissima, vedete ancora queste espressioni simili a quelle dell'infinito, cioè questa idea del vago e dell'indefinito, che però qui non ha più nulla di piacevole, non è più dolce naufragare in questo mare, al contrario è fonte di inquietudine, di turbamento esistenziale, diciamo. Empiranno lo spazio immenso. Così questo arcano mirabile spaventoso, espressione rimasta celebre, questo arcano mirabile spaventoso, questo mistero mirabile e spaventoso, arcano è una parola cara a Leopardi, cosa arcana e stupenda, no? Arcano è un termine che con tutta probabilità rinvia etimologicamente all'arca. L'arca è lo scrigno, ma è anche il sarcofago, cioè può racchiudere un tesoro, ma può racchiudere anche un cadavere. Arcano ha questa, anche nel suono, una parola inquietante, minacciosa, ma anche rinvia all'arca, cioè allo scrigno, ma anche al sepolcro. Innanzi di essere dichiarato né inteso si dileguerà e perderassi, cioè prima ancora di essere rivelato o di poter essere compreso si dileguerà e si disperderà. Svevo, Italo Svevo, concluderà la coscienza di Zeno con una pagina che riecheggia direttamente questa visione così apocalittica, no? Questa sorta di finale ecpyrosis, no? Come la chiamavano gli stoici, proprio la conflagrazione, no? È interessante notare che il cantico del gallo silvestre con tutta probabilità si ripete ciclicamente nel tempo, no? il gallo silvestre periodicamente, secondo una delle varie ipotesi, no? Lungo il cammino delle età, ripete questo canto, e anche all'interno dello stesso cantico, come in una sorta di mise en abîme, viene evocata l'idea dell'eterno ritorno dell'uguale. Eppure, come in una sorta di spira mirabilis, insomma, questa mise en abîme infine dovrà approdare al nulla definitivo e indefinito. Così, allora, ecco qui Leopardi, come dirà poi Svevo alla fine della coscienza di Zeno, dice insomma, l'universo è destinato ad una, l'esistenza umana, insomma, è una sequela di continue sofferenze, di speranze vane, di inutili affanni, soltanto la morte e l'annullamento potranno essere rimedio. Allora, dunque, e notate ecco anche la prosa delle operette morali, che è una prosa tipicamente latineggiante, qui nel Cantico del Gallo Silvestre, volutamente pesante, perché Leopardi vuole fare eco al turgore della poesia orientale, della poesia biblica, ma ecco, di norma è una prosa molto latineggiante, no? Con molte subordinate, con simmetrie e euritmie, è una concinnitas, ecco, che fa pensare a Cicerone, anche se nei dialoghi vi è spesso una rapidità quasi goldoniana, quasi danzante, ad esempio nel dialogo della morte della moda, soprattutto nel dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. Ecco, nel dialogo della natura di un islandese, Leopardi immagina che l'islandese, il viaggiatore, che già proviene da una terra così ostile come era all'epoca l'Islanda, si imbatta nella natura, ecco, questa smisurata creatura che incarna la natura, e chissà che Leopardi non avesse in mente anche la madre, la propria madre, quando rappresentava la madre per eccellenza, che era la natura, cioè così insensibile, spietata, quasi, quasi meccanica, quasi un Moloch, quasi un Leviatano. La natura che dice, impassibile, insomma, l'islandese che chiede alla natura: perché tu natura ci fai nascere se poi dobbiamo tanto soffrire? La natura gli risponde: io stessa devo seguire le mie stesse leggi, io non ho una volontà autonoma, se anche l'intera umanità fosse sterminata da un momento all'altro, io non me ne avvedrei, non me ne accorgerei nemmeno, insomma, una natura impersonale, spietata con le proprie leggi automatiche, insomma, incapace di qualsiasi empatia. Ecco, no? Qui si potrebbe chiamare in causa il concetto filosofico proprio di natura. È ovvio che Leopardi è piuttosto lontano, anzi è agli antipodi rispetto all'ottimismo di Leibniz, all'idea del principio di ragion sufficiente, dell'armonia prestabilita. Insomma, la natura di Leopardi non è nemmeno il Deus sive natura di Spinoza. Ecco, Leopardi è semmai più vicino a De Sade, è più vicino ai materialisti, o meglio, ecco, non tanto ai filosofi quanto agli ideologhi francesi, cioè pensatori materialisti, ma con una venatura fortemente pessimistica. Helvétius, Condillac, d'Holbach, de la Mettrie, non il versante così luminoso, insomma, il versante più positivo e più ottimistico, insomma, dell'illuminismo, ma casomai, ecco, il materialismo, il meccanicismo più cupi, ecco, un fondo tragico, cioè l'inevitabilità della sofferenza, dice De Sade, è inevitabile. De Sade viene di solito ricordato come il romanziere Sossone, ma proprio in quei romanzi, no, fra un'orgia e l'altra, ci sono delle riflessioni filosofiche di straordinaria profondità. De Sade dice: ma insomma, è legge di natura che l'appagamento, il piacere di una singola creatura vadano a discapito di altre creature. Per il godimento di una creatura c'è, cioè, la sofferenza di un'altra creatura. Quindi la ricerca spasmodica del godimento rende altrettanto inevitabile una grande quantità di sofferenza. Dunque, è la ricerca di un piacere infinito, di conseguenza, specularmente conduce ad una infinita sofferenza. Allora, vediamo un po'. A questo punto torniamo alla poesia, dobbiamo leggere a se stesso. Questo sì che è proprio pessimismo cosmico, insomma. A se stesso. Questa espressione pessimismo cosmico, insomma, si trova in tutti i manuali, ma non è un'espressione leopardiana. Non, evitate queste etichette che insomma lasciano un po' il tempo che trovano. Comunque, allora, a se stesso che trovate in tutti i manuali, io comunque ho caricato il PDF. Ecco, 1833. Dopo la delusione d'amore, dopo il rifiuto, insomma, di Fanny Targioni Tozzetti che l'aveva respinto, il povero Leopardi, povero, insomma, scrive questo testo a se stesso. Il titolo rinvia all'opera di Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, Ta eis eauton. Di norma il titolo viene tradotto con pensieri, ma ta eis auton significa letteralmente frasi o parole, insomma, sottinteso, rivolte a se stesso. Non ci sono riferimenti, è molto difficile trovare riferimenti diretti all'opera di Marco Aurelio. Casomai lo stile qui è estremamente conciso, decisamente aforistico. Io credo di avere anche caricato in didattica un articolo scritto da me, pubblicato sulla rivista Il Lettore di Provincia, Leopardi e l'aforisma, in particolare la gnome, cioè praticamente. La parola gnome in greco, sentenzia, diciamo in latino, stava ad indicare proprio una frase estremamente concisa, spesso con un ritmo poetico, capace di sintetizzare in poche parole concetti di straordinaria vastità e profondità. Eraclito fu forse il grande maestro di questa arte. Ma ecco, casomai, sì, ecco, diciamo, soprattutto dal punto di vista dello stile, ecco, la grande concisione di queste frasi, che sono quasi degli aforismi poetici, può far pensare a Marco Aurelio, unitamente all'idea dell'eterno ritorno, che sembra effettivamente avere attraversato tutta l'opera di Leopardi. Allora, or poserai per sempre, stanco mio cor, perì l'inganno estremo che eterno io mi credei. L'apostrofe al proprio cuore si trovava nella tradizione letteraria, già in Omero, no? L'apostrofe al proprio cuore, oh mio cuore. In questo caso la delusione, l'evento che aveva ispirato il testo era la delusione per essere stato respinto da Fanny Targioni Tozzetti, che in effetti a giudicare dai ritratti, insomma, era bellina, mentre come si chiamava lì, la cugina, quella insomma non è che non si era perso molto. Ma or poserai per sempre, stanco mio cor, perì l'inganno estremo, che eterno io mi credei, perì, ben sento, in noi di cari inganni, non che la speme, il desiderio è spento. Dice perì, nel senso latino cioè del verbo pereo, cioè cadde, andò in rovina, fu distrutto, è stato distrutto, che è caduto, è andato in rovina. L'inganno estremo, cioè l'ultima illusione, cioè l'ultima speranza, lui insomma sperava di essere ricambiato da Fanny Targioni Tozzetti, ma sarebbe stato un amore impossibile anche se lui fosse stato bello, perché insomma era anche di un livello socio-economico enormemente più alto. Che eterno io mi credei, quindi che io credetti fosse eterno. Perì, dice, ben sento in noi di cari inganni, non che la speme, il desiderio è spento. Dice, me ne accorgo bene, dice, in me non solo la speranza, ma anche il desiderio di cari inganni, cioè di care illusioni, ormai si è spento. Posa per sempre, dice il mio cuore, basta, calmati, abbandona ogni speranza. Assai palpitasti, hai palpitato, hai battuto abbastanza. Non val cosa nessuna i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra. Dice, non vale la pena di prendersela tanto, insomma, no? La terra non è degna dei tuoi sospiri. Beh, guardate che quello che dice Leopardi, anche dal punto di vista così banale, strettamente pratico, non è che sia proprio del tutto sbagliato, perché quante volte capita, io credo che quasi a tutti sia capitato, almeno una volta, di soffrire tanto per delle persone che non meritavano nemmeno di essere proprio degnate di uno sguardo, insomma, uno sta. Stare tanto a soffrire, ma insomma, per certa gente che proprio andrebbe presa e buttata. Vabbè, comunque, amaro e noia la vita. Ecco, adesso da qui a dire proprio amaro e noia la vita, altro mai nulla. Ma sì, cioè, tipico esempio di generalizzazione indebita, è un po' come dire italiani mafiosi, insomma. Non è che se uno ha avuto una delusione che 2, 3, 10, 100, tutto debba essere per forza, ecco, amaro e noia. Ogni tanto c'è qualche piccolo svago, insomma. Oddio, in questo periodo tappati in casa, mica tanto, però insomma, vabbè. In futuro non si può mai dire. Amaro e noia la vita, altro mai nulla. E fango al mondo. Ecco, questa parola fango nella letteratura, in poesia è usata di rado. È una parola, è un termine che proprio all'interno del linguaggio poetico è come un pugno nello stomaco, fango è una parola che in bocca a un poeta dell'Ottocento, ha un effetto piuttosto straniante, insomma. Taquieta ormai, cioè basta, smettila di soffrire, dispera l'ultima volta, abbandona ogni speranza. Viene in mente un po' Dante, non so, lasciate ogni speranza voi che entrate, ma Leopardi avrebbe detto, e anche Lucrezio veramente dice, no, l'inferno è dentro di noi, no? L'inferno è dentro di noi. Inutile immaginare i supplizi là di Sisifo, di Prometeo, di Issione. In realtà tutto questo è dentro di noi. Allora, dispera l'ultima volta, al genere nostro il fato non donò che il morire, dice. L'unica possibile salvezza, l'unico sollievo, l'unica gioia è la morte. Beh, in effetti, questo è letteralmente vero, la morte libera da tutte le sofferenze. Questo. Questo è innegabile. Ormai disprezza te la natura, il brutto, ecco, anche brutto non è un termine molto comune in poesia, no? Brutto e fango sono due parole, beh sì, di uso comune nell'italiano di oggi, ma in rapporto al sistema espressivo del linguaggio poetico dell'Ottocento erano come due chiazze, due macchie o due pugni nello stomaco, due sassi nello stagno, due vetri rotti, insomma, fate voi, degli strappi molto violenti, insomma. Il brutto potere, ecco, che cos'è questo brutto potere? Il male con la M maiuscola, insomma, probabilmente è un concetto gnostico, molti hanno parlato dell'influsso gnostico su Leopardi. Per gli gnostici c'erano due divinità, c'era un dio superiore che era il dio buono, un dio inferiore che invece era il dio malvagio. Questo brutto potere probabilmente rappresenta il dio malvagio. Beh, c'era lo stesso concetto anche nel mazdeismo persiano, no? C'era Ahura Mazda che era il dio buono e poi c'era la divinità malvagia che non mi ricordo come si chiamasse, ma insomma. Che è ascoso come un danno, ecco, ascoso è un altro termine usato sia da Leopardi, un termine molto, una parola molto suggestiva, ascoso nel senso di nascosto, il latino absconditus, parola usata sia da Manzoni che da Leopardi, ma in due sfere semantiche diverse, perché per Manzoni ascosa, cioè nascosta allo sguardo di noi mortali, è la volontà di Dio, che però promette un premio ultraterreno in cambio delle sofferenze della vita presente. Mentre per Leopardi ad essere ascoso, cioè nascosto, è il male, era la radice, l'origine del male. Ecco, il cosiddetto mysterium iniquitatis, il mistero del male, perché c'è il male, perché gli innocenti soffrono, perché ci sono tante disgrazie, malattie, catastrofi. Uno dice perché c'è questo virus? Beh, in confronto ad altre catastrofi, malattie, epidemie che ci sono state nella storia, questa sembra una barzelletta, anche in confronto a tanto male causato dall'uomo stesso, che forse è ancora più crudele della natura, anche se comunque l'uomo fa parte della natura, quindi anche la malvagità dell'uomo è figlia della natura. Ma insomma, ha come un danno impera, insomma, questo potere che impera, cioè comanda la sofferenza di tutti, no? Ordina la sofferenza di tutti, e l'infinita vanità del tutto. Ecco, questa è una citazione biblica. Vanitas vanitatum et omnia vanitas, Coelet, o per meglio dire l'Ecclesiaste, quei celebri. Ecco, prima abbiamo parlato dell'influsso biblico in Leopardi. Non si comprende questo testo senza vanità di vanità, tutto è vanità. Ecclesiaste. Vanità di tutte le cose. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, vanità delle vanità, tutto è vanità. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? È lo stesso concetto del gallo silvestre. Una generazione se ne va, un'altra viene, e la terra sussiste per sempre. Anche il sole sorge, poi tramonta, e si affretta verso il luogo da cui sorgerà di nuovo. Il vento soffia verso il mezzogiorno, poi gira verso settentrione, va girando, girando continuamente per ricominciare gli stessi giri, come la luna nel canto notturno di un pastore errante. Tutti i fiumi corrono al mare, versetto rimasto celebre, no? Eppure il mare non si riempie, al luogo dove i fiumi si dirigono continuano a dirigersi sempre. Ogni cosa è in travaglio più di quanto l'uomo possa dire. Ogni cosa è in sofferenza, vuol dire. L'occhio non si sazia mai di vedere, l'orecchio non è mai stanco di udire. Ciò che è stato è quel che sarà. Ciò che si è fatto è quel che si farà. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Nil sub sole novi. Rimasto celebre, rimasta celebre proverbiale questa espressione. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questo è nuovo. Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. Non rimane memoria delle cose d'altri tempi, così di quanto succederà in seguito non rimarrà memoria tra quelli che verranno più tardi. In fin dei conti, in questi versetti, Ecclesiaste 12, 10, 12, Ecclesiaste noto anche come Coelet in ebraico, c'è già, se vogliamo, Leopardi. Con la differenza però che il pessimismo biblico almeno ha una compensazione, insomma, nella fiducia o nella speranza della bontà divina che si manifesterà dopo la fine di tutto, mentre per Leopardi non c'è nemmeno questa speranza, perché Leopardi si allontana dalla religione cattolica che aveva professato nell'infanzia, si allontana molto presto, in lui rimane una inquietudine spirituale, perché il fatto stesso di chiedersi il senso delle cose, già di per sé, c'è quella frase di Pascal, no? Tu non mi cercheresti se non mi avessi già trovato, cioè di fatto. Il fatto stesso di cercare il senso della vita significa che quell'interrogativo dentro di noi comunque c'è. Ecco, ma rimane un'inquietudine irrisolta, e anzi risolta soltanto, risolta per modo di dire, nel pensiero dell'annientamento e del nulla. Ecco, qui viene in mente un passo di Seneca, il Seneca tragico, le tragedie di Seneca, non so se si leggano ancora a scuola, credo di no. si leggono poco in generale, proprio le tragedie di Seneca in genere vengono considerate, insomma, anche nell'antichità erano considerate troppo, erano tragedie retoriche, insomma, destinate non alla rappresentazione, ma alla lettura. Effettivamente uno stile piuttosto pesante, insomma, fin troppo elaborato. Ad ogni modo, no, nelle Troades, nelle Troiane di Seneca, atto secondo, versi 398-399, 398 e seguenti, post mortem nihil est, ipsaque mors nihil. Velocis spatii meta novissima. Post mortem nihil est, ipsoque mors nihil, velocis spatii meta novissima. Se uno non lo legge in metrica, non, insomma, diciamo, perde tutto. Dopo la morte non esiste nulla, la morte stessa è niente, l'ultima meta di una corsa rapida. Dopo la morte no, non vi è nulla e la stessa morte è il nulla. Forse solo in questo pensiero, ecco, l'ultimo Leopardi trovò una qualche speranza, anche se nella Ginestra si affaccia che viene considerata l'ultimo canto, anche se a dire il vero l'ultimo canto fu l'incompiuto tramonto della luna, ecco, il tramonto della luna, quello è veramente l'ultimo canto. Ma ecco, nella Ginestra c'è la speranza, così, in una sorta di etica della solidarietà, insomma, tutti gli uomini che dovrebbero essere confederati insieme contro il nemico comune, cioè la natura, che è il brutto potere che ascoso ha come un danno impera, ma rimane una speranza piuttosto vaga. Noi invece leggiamo qualche verso del canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Qui avete un PDF, io ho caricato lì in rete un PDF. Questo testo ovviamente si trova in tutte le antologie possibili e impossibili, insomma, difficile trovarne una in cui non ci sia, ma ecco, qui vabbè, ci sono delle note molto essenziali, non viene riportato per intero, vengono riportati solo alcuni passaggi. E anche ecco, è molto, molto suggestivo nel film di Martone, è molto suggestiva la rappresentazione di questo canto. Non, credo di avervi di, que, di questo testo, credo di avervi, anzi, è un grande idillio. Questo rientrano fra i grandi idilli. E allora credo di aver messo in rete il link al segmento del film di Martone, Il giovane favoloso, in cui viene recitata la poesia, e ci sono delle splendide immagini del cielo stellato prese. Cioè sono immagini davvero straordinarie dal punto di vista cinematografico. Insomma, rappresentare cinematograficamente un testo poetico è un'impresa molto ardua. Nel film di Martone ci sono alcuni passaggi in cui questa impresa riesce. Allora, che fai tu luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Anche qui bisogna far sentire quella dieresi che non è segnata, ma c'è. Silenziosa luna, un po' come nell'infinito, profondissima quiete, quiete, silenziosa. Bisogna far sentire la dieresi, cioè la separazione fra le due vocali, altrimenti proprio è un dettaglio minimo, ma il verso perde quasi tutto il suo fascino. Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancora non sei tu paga di riandare i sempiterni calli? Quei calli non sono i calli quelli dei piedi, qui si intende. Non ti sei ancora stancata, insomma, di ripercorrere sempre le stesse orbite, gli stessi cammini astrali, i cammini celesti? Esattamente la stessa immagine che si trova in quel brano di Coelet. anzi Cochelet. Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirare queste valli? Ah, c'è anche la splendida recitazione di Carmelo Bene, che interpreta questo testo. Insomma, se mi ricordo, vi metto anche quella in rete. Ancora non sei tu paga di riandare i sempiterni calli, ancora non prendi a schivo, ancora sei vaga di mirare queste valli. Carmelo Bene la leggeva veramente in un modo straordinario. Quindi non ti sei ancora stancata, sei ancora desiderosa, qui vaga significa desiderosa, di contemplare queste valli, cioè questa valle di lacrime di noi mortali. Somiglia la tua vita alla vita del pastore, sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre per il... Ah, antefatto, mi sono dimenticato. Leopardi lesse in una rivista, il Journal des Savants, una rivista erudita francese, lesse un resoconto di viaggio in cui si diceva che pastori nomadi appunto dell'Asia erano soliti intonare, indirizzare canti alla luna. E anche qui questa brevissima notizia, un po' come quelle tre righe del lexicon caldaicum nel caso del cantico del gallo silvestre, ispirarono, diedero almeno lo spunto iniziale, ecco, per scrivere questo straordinario canto. Cioè Leopardi immagina, ecco, quale potesse essere il canto del pastore. Quindi c'è un gusto tipicamente preromantico, per una forma di esotismo, ecco, tipicamente romantica, cioè viene, insomma, si immagina il canto di questo pastore, che ovviamente un pastore, no, una persona molto semplice, molto così a contatto con la natura, che osserva il paesaggio, quei deserti, le pecore, insomma, no, e da queste poche immagini ricava una riflessione esistenziale che, così ridotta proprio ai concetti base, sembra quasi infantile, no? Luna, cosa stai a fare lì? Non ti sei ancora stancata di girare intorno, insomma, no? Così, no? Non ti sei ancora annoiata, ecco. E allora sì, somiglia la tua vita alla vita del pastore. In fin dei conti anch'io come te faccio sempre le stesse cose, sorge sul primo albore, muove la greggia oltre per il campo e vede greggi, fontane ed erbe. Qui lo stile è vagamente petrarchesco, con questi polisindeti, o meglio un asindeto, insomma questa enumerazione di termini. Poi stanco si riposa in sulla sera, altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Notate prima il chiasmo, al pastor la sua vita, la vostra vita a voi, e poi il parallelismo, questo vagar mio breve, il tuo corso immortale, anzi chiasmo, vagar mio, tuo corso, e poi vagar breve, corso immortale, insomma. Qui l'analogia, il rispecchiamento, diciamo, reciproco fra le due condizioni, quella terrena e quella astrale, viene sottolineato da questi parallelismi anche stilistici. Dunque, nasce l'uomo a fatica ed è a rischio di morte il nascimento. Versi rimasti celebri, no? Venivano sempre citati. L'uomo nasce con fatica e la morte stessa, e la nascita stessa è a rischio di morte. Ah, mi sono dimenticato di dire una cosa importante, ma... viene in mente una pagina di Seneca, no? Il quale dice che... l'incessante ripetizione degli stessi eventi, no? Delle stesse occupazioni, finisce per generare libido moriendi, desiderio di morire. Dice, no, nel detra... no, nel... allora... No, nelle lettere a Lucilio, in una delle epistole ad Lucilium si trova. Insomma, adesso Cotidie morimur, cotidie enim, demitur aliqua pars vitae. Insomma, la celebre epistola del Cotidie morimur, moriamo ogni giorno. Ma ecco, dice, etiam cum ratio suadet finire serge, vir fortis ex sapiens non fugere debet e vita sed exire, e tante omnia ille quoque vitetur ad factus qui multos occupavit libido moriendi. Dice, insomma, l'uomo forte e sapiente non deve fuggire, rifugire dalla vita, ma deve uscirne quando è il momento dovuto. Questa libido moriendi, questo desiderio, questa brama di morire, nasce proprio dalla considerazione del perenne ossessivo ripetersi delle stesse occupazioni, a maggior ragione poi in questo periodo di clausura. Chissà se statisticamente c'è stato un aumento di suicidi, secondo me sì. Comunque, quousque eadem nempe expergiscar dormiam edam esurriam algebo estuabo, insomma ripeterò sempre le stesse cose, dovrò alzarmi e andare a dormire, mangiare, esurriam, che cavolo vuol dire, non lo ricordo, aver sete, algebo estuabo, cioè avrò freddo, avrò caldo. Poi quelli andavano anche alle terme, quindi c'era il frigidarium, il calidarium, quindi. Non li uscirei finis est sed in orbem nec sunt omnia fugunt ac secuntur. Dice, tutte le cose sono in orbem nexa, sono come sembra scritto oggi questo, no? Dice, omnia in orbem nexa sunt omnia. Oggi sembra che parli di internet, invece qua intende un concetto, sembra che parli del villaggio globale, insomma, no? E invece sta introducendo il concetto stoico, no? del cosmo come immenso essere vivente, no? Nil novi faccio, nil novi video, le stesse parole che si trovano anche nell'Ecclesiaste, insomma, non c'è mai niente di nuovo. Anche Vittorio Alfieri in un sonetto dice, no? Cose già viste a sazietà riviste, sempre vivrai, san come mill'anni vivi, no? Insomma, fitali quando et unius rei nausea, c'è questa parola da cui deriva proprio l'italiano, nausea. Multi sunt qui non acerbum iudicent vivere sed super vacuum, cioè la vita a molti sembra non aspra, non dolorosa, ma inutile, superflua. Vivere super vacuum, vale a dire. La lettera è la 24. La lettera 24esima, che fra l'altro lascia la questione un po' in sospeso, un po' nel dubbio, perché si conclude così, dice, molti ritengono la vita così, vivere non acerbum sed super vacuum, e questa continua ossessiva ripetizione, no, genera libido moriendi. Beh, questa idea della ripetizione ossessiva si trova anche in Kierkegaard, ad esempio, insomma, è un pensiero molto, molto moderno che si ritroverà negli esistenzialisti, insomma. Ad ogni modo, allora, sorge sul primo albore, muove la greggia oltre per il campo e vede greggi, fontane ed erbe, poi stanco si riposa in sulla sera, altro mai non ispera. Dimmi, o luna, che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Ma questo, invece, che senso ha tutto questo? Cioè, il vagar mio breve, il tuo corso immortale, cioè il breve spazio della mia vita e invece la vastità dei tuoi cicli astrali. Ah, qui stavamo dicendo, nasce l'uomo a fatica del rischio di morte nel nascimento, prova pena e tormento per prima cosa, e sul principio stesso la madre, il genitore, il prende a consolare dell'essere nato. Cioè, il bambino nasce piangendo e deve essere come consolato della nascita. La nascita è il trauma primigenio. Concetto di straordinaria modernità. Una grande psicanalista del Novecento, Melanie Klein, scritto K, Livorno, Empoli, Imola, Napoli, parlerà proprio di questo trauma primigenio, che è il trauma della nascita, cioè il fatto stesso di nascere è insomma, la stessa nascita è una sofferenza, lo stesso aprire gli occhi alla luce per la prima volta è un trauma primigenio di cui ovviamente nessuno di noi può conservare memoria. Pare che alcuni conservino, credano di conservare addirittura ricordi di quando erano nel ventre materno, ma insomma un po' difficile, insomma, i primi ricordi quando risalgono, è una questione interessante. Poiché crescendo viene l'uno e l'altro e sostiene, via pur sempre con atti e con parole, studiasi fargli core, cioè fargli coraggio, e consolarlo dell'umano stato, cioè consolarlo della condizione umana. Beh, bisogna anche considerare che ai tempi di Leopardi partorire e nascere erano ancora un'impresa molto ardua, perché insomma ci sono parti difficili anche oggi con tutte le tecnologie, tutti i ritrovati scientifici che ci sono, figuriamoci poi ai primi dell'Ottocento, insomma. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla loro prole, ma perché dare al sole, perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Dice, perché far nascere qualcuno se poi bisogna consolarlo dell'essere nato? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Perché continuiamo a vivere se la vita è sventura, se la vita è sofferenza? Intatta luna tale è lo stato mortale. Intatta, questa vuol dire, qui intatta nel senso etimologico, cioè la luna per definizione è vergine, vergine Diana, vergine Artemide, anche se c'è quella canzone di Zucchero, no? Dice, il sole salì sulla luna dietro una tendina di stelle, insomma, vabbè. Insomma, ha scritto di meglio poi anche lui. Comunque, dice, ma tu mortal non sei, e forse del mio dir poco ti cale. Dice, ma tu non sei mortale, e forse poco ti importa del mio dire. Pur tu delle mie parole, pur tu solinga eterna peregrina, che si pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il pater nostro, il sospirar che sia. E tu certo comprendi il perché delle cose, vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito infinito andar del tempo. Bellissimo verso, il tacito infinito andar del tempo, che sembra quasi alludere alla immagine platonica del tempo come eikon tu aionos, cioè immagine mobile dell'eternità, il tempo come imago eternitatis. Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera, a chi giovi l'ardore che procacci il verno coi suoi ghiatti, cioè quale sia il senso delle stagioni proprio, no? Per quale suo dolce amore sorrida la primavera, cioè Proserpina personificata, a che cosa serve il caldo dell'estate, a che cosa serve il gelo dell'inverno con i suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille discopri che sono celate al semplice pastore. Qui manca la parte in cui il pastore dice, insomma, no, a me la vita è male, qualcun altro avrà pure un qualche giovamento, avrà pure un qualche beneficio, insomma, dall'esistenza, dice, a me la vita è male, e forse non c'è nessuna differenza, no, che si tratti di un animale o di un essere umano, che si tratti di un ricco o di un povero, insomma, è funesto a chi nasce il di Natale, ecco, il celebre verso, no, è funesto a chi nasce il di Natale, cioè, che il giorno della nascita sia una condanna a morte, questo è letteralmente vero, e c'è poco da fare. È funesto a chi nasce, dice il pessimismo leopardiano, è funesto a chi nasce il di Natale, sfido chiunque a dimostrare il contrario, uno nasce e gli toccherà morire, quindi il giorno della nascita è ipso facto una condanna a morte, quindi, cioè, è funesto a chi nasce il di Natale. Anche perché poi, insomma, nella visione leopardiana la vita è piena di sofferenze, ma non solo nella visione leopardiana, perché poi tutti dicono Leopardi pessimista, vabbè, se uno vive felice e contento e non ha nessuna preoccupazione, nessuna sofferenza, nessuna malattia, e vabbè, buon per lui, ma insomma, purtroppo, come sappiamo bene, il mondo è pieno, e qui banalizzo molto tutto il discorso, insomma, no? Ma cioè, c'è poco da fare. Il mondo, la natura, la vita sono comunque pieni di sofferenze, disgrazie, sciagure, catastrofi e scalogne di ogni genere. La letteratura, la filosofia, l'arte, eccetera, non è che possano risolvere tutti questi problemi. A malapena riesce a risolverli la scienza, lo vediamo bene in questi ultimi tempi, insomma, tutti questi virologi che dico. Tanto varrebbe credere al mago Telma, a Burioni, ha detto no, in Italia il contagio è impossibile, invece il mago Telma ha detto no, ci sarà anche in Italia, ci sarà anche una catastrofe, e ci aveva beccato il mago Telma più che il virologo Burioni. Quindi insomma, anche questo discorso, no, cioè, filosofia, poesia, eccetera, eccetera, non servono a niente, invece la scienza, ma insomma, a volte anche la scienza tira un po' a indovinare, ma comunque, insomma, morale della favola, passa in Mazos, no? Conoscenza attraverso la sofferenza, un po' insomma, il messaggio fondamentale di tutta questa cultura umanistica che oggi i più considerano soltanto un mucchio di elucubrazioni mentali fini a se stesse. E insomma, se l'uomo ha qualcosa in più rispetto agli animali, e questo lo dice proprio Leopardi lì nel Canto Notturno, questo qualcosa in più è proprio l'autocoscienza, insomma, in più o in meno, perché l'autocoscienza è anche fonte di sofferenza. Chi accresce il proprio sapere accresce anche il proprio dolore, no? come dice la Bibbia. Quindi, ma se non altro, insomma, uno può cercare di acquisire una consapevolezza di quello che gli succede, insomma, non vivere così come un... Infatti non foste a vivere come bruti, insomma, e quindi, insomma, se non altro, tutta questa cultura e tutta questa riflessione possono aiutare ad acquisire un minimo di consapevolezza, che è poi forse lo scopo per cui siamo qui sulla terra. Così nell'immediato lo scopo è finire questo disgraziato anno scolastico e darvi gli ultimi voti. Quindi, in parole povere, metterò stasera stesso, domani, in rete una semplice traccia. Insomma, io non dovrei dirlo, ma in teoria potrebbe farlo anche uno che non ha mai studiato Mazzone e Leopardi, ma se li studiate è meglio, e dovrete consegnarlo, facciamo, non so, solo che poi lo consegnate sempre in ritardo, allora come si fa? Lì c'è lo scrutinio, bisogna mettere i voti. Facciamo 25 maggio, improrogabile, ecco. E anche chi ha due voti, va bene, ne avrà tre, insomma, dai, adesso c'è chi ha tanto e c'è chi ha poco, insomma. Bene, allora, per quest'anno credo proprio che questa sia l'ultima lezione, quindi cosa devo dire? Non so se dire buone vacanze, perché non so neanche che razza di vacanze. Si fanno le vacanze distanziate, vabbè che io in vacanze di solito non ci vado, insomma, a prescindere dalla malattia, quindi dall'epidemia, quindi non, per me cambia poco, che comunque, vabbè, insomma, adios.